Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti signori miei, domenica 1 ottobre, sono le 14, puntualissimi, una manciata di secondi. Cominciamo la nostra quarta puntata della terza stagione, sembra un telefilm, una fiction, di Voice Anatomy, proprio qui dalle onde di Radio 24. A mio fianco già ci ha raggiunto la nostra prima ospite, un'attrice, doppiatrice meravigliosa, come tutte le persone che si alternano a questi microfoni. Ma prima, come sempre, ricordiamo che questo giorno sono nate delle persone che con la loro voce ci hanno regalato dei sogni indimenticabili, come Youssou N'Dour. C'è tanta gente, ma soprattutto, signori, Julie Andrews, che è lo pseudonimo di Julia Elizabeth Wells, che è un'attrice, cantante, regista e scrittrice britannica, vincitrice di tutti i maggiori premi del mondo dello spettacolo, fra cui un Oscar, 5 Golden Globe, e insignita dalla onorificenza di dama di commedia dell'ordine dell'impero britannico, pensate. Appena adolescente fu il suo debutto a Broadway con The Boyfriend. A 27 anni gira il suo primo film, Mary Poppins, al quale seguono altre pellicole di grande successo, come Tutti insieme appassionatamente, che la consacrano come l'attrice più pagata e richiesta degli anni 60. Nel 1964, pensate, Julie Andrews era candidata al Golden Globe per Mary Poppins. Contro di lei gareggiava Audrey Hepburn con My Fair Lady, ruolo per cui la Andrews era stata rifiutata. Il Golden Globe fu vinto dalla Andrews, che nel discorso di accettazione ebbe la sua rivincita e disse: "I miei ringraziamenti vanno ad un uomo che ha fatto un film magnifico e ha reso tutto ciò possibile, Mr. Jack Warner", che era il produttore di My Fair Lady. Allora noi ce l'ascoltiamo per qualche secondo in supercalifragilisticexpialidocious, no? In inglese ovviamente lei è Julie Andrews. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say, we ain't the nose. The biggest word you ever heard. E via, stiamo saltando, eh? Allora colgo l'occasione per salutare tutte le persone che fanno parte di questa bellissima cavalcata attraverso la voce. Dall'altra parte del vetro, Rachele come capo redattrice di se stessa, per cui era facile essere capo redattrice, ma i miei autori insostituibili, Mauro Meconi e Alessia Navarro, anche come capo progetto. Oggi non c'è né Valerio né Alessandro, ma c'è Leonardo. Ho scelto un tecnico, magari, ma il nome era bello, Leonardo. Poi non so cosa sa fare dall'altra parte del vetro, ma sicuramente il nome mi fa piacere. No, Leonardo, ciao, grazie mille di essere qui domenica con noi in diretta. E saluto anche Milano, senza di loro la messa in onda sarebbe impossibile. Vi abbraccio forte, vi ricordo il numero degli SMS, ma conoscete perfettamente, 349 238 6666. Se volete interloquire con noi, 800 24 00 24. Vabbè, questa introduzione di 3 minuti c'è stata. Adesso voglio presentare, cercata, non avevo il suo numero ultimamente, ho chiesto a destra e a sinistra, finalmente l'ho raggiunta. Lei è nata a Roma il 14 settembre. Basta, non si dice l'anno, vero? Perché no? No. È nata come Mauro Meconi, cioè sei nata lo stesso giorno di Romanzo Criminale. Pensa che io quando faccio il compleanno, il giorno dopo dico già che ho l'anno successivo. Eh sì, perché puoi ancora dirlo, perché sei del 70. Quest'anno ne ho fatti 47 e io già dico 48. 48, perché stai bene con te stessa. Sì. Stenditi, parlami di te. Laura Romano è un'attrice e doppiatrice italiana, ovviamente, sorella del doppiatore amico Maurizio Romano, noto per prestare la voce a Colin Firth, non tu, ovviamente. No, Maurizio. Tu hai vinto tanti premi, eccetera, va bene, ne doppi di tutti i tipi, ma ti conosceremo strada facendo, ovviamente. Mm-hmm. Insomma, Vorrei cominciare proprio da te. Ti faccio delle domande di storia adesso. Tu non ti ricordi niente, tanto, però. No, assolutamente. In che anno Garibaldi? No, sta tranquilla, dai. Teatro o doppiaggio? Quello che vuoi. Teatro? Che ti è stata la prima, esatto, la prima primo amore, passione, no? Sì, cominciato con la scuola di recitazione, poi durante la scuola. Quanti anni l'età dell'opera? Avevo 18 anni. Scuola di recitazione, poi dopo un paio di anni ho cominciato a seguire mio fratello che aveva cominciato a fare il doppiatore, seguendolo per le sale, ho detto, mi diceva, ma no, ma perché non provi anche col doppiaggio? Che secondo me è una cosa per cui tu sei adatta. E io ho detto, ma vabbè, proviamo. E quindi ho cominciato per anni a seguire, insomma, tanti mesi sono stata a seguire in silenzio accanto al direttore, chiedendo proprio in un angolo per pietà se potevo assistere. Fino a quando dopo sei mesi finalmente qualcuno mi ha detto: ma chi è questa prova che sta sempre qui sui ceci in ginocchio? Ma perché non la facciamo parlare? Chi t'ha scoperto? Allora, mi ha scoperto Renzo Stacchi. Renzo Stacchi. Renzo Stacchi. Con Renzone ho fatto il mio primo turno nella Bella e la Bestia, in cui dicevo soltanto una parola. Dicevo, è bellissimo, è una delle tre ragazze che stavano dietro a Gaston. Vabbè, però dai, da qualche parte bisogna cominciare. Sì, io la prima sì, cosa che ho detto a doppiaggio è stato... e basta, per cui puoi immaginare, insomma. Senti, voglio subito far sentire ai nostri amici radioascoltatori la voce, la tua voce su Viola Davis, che è questa attrice che quest'anno, insomma, ha vinto pure un Oscar, no? È un'attrice incredibile. Con questo film è poco visto, è uscito adesso in DVD o in Blu-ray, guardatelo, che è Fences, che è il nome originale, ma è Barriere, con Denzel Washington, regia di Denzel Washington, un film teatrale meraviglioso. Sì, film due ore e dieci. E loro sono eccezionali, lei è veramente un'attrice inarrivabile. E loro hanno già fatto a Broadway nel 2010 e poi deciso, perché dice Denzel Washington, voglio prendere confidenza con questa storia. Storia bellissima, sì. Irraccontabile. Ed era difficile, difficile perché avete respirato con loro per 2 ore e 10. Io sì, l'ho visto, lei, sembrava un film in italiano. Lei è veramente molto, molto difficile perché è intensa. Tu la fai anche nelle regole del diritto le perfetto. Le regole del diritto perfetto, esatto, sì. Con Annalise Keating. Sì, perché lei poi varia, ecco, dalla fiction leggera sì, comunque a dei film di un'intensità. Sì, sì, sì, no, lei è veramente straordinaria, poi ci entra con tutto il corpo nelle... E tu pure ci sei entrata dentro, eh? È parecchio, sì, insomma. Devo io dire poi... Carlo Valli ha avuto un ruolo importante, non solo un bravissimo doppiatore, ma è stato un grande direttore e adattatore. Sì. Quanto sapete Barriere, quanto è sì, importante adattare un film, soprattutto per noi che lo va e per la gente che lo ascolta. Allora io me lo ascolterei, cara Laura Romano, sentirei la tua interpretazione un momento di Viola Davis in questo Barriere, che vi consiglio vivamente di vedere. Ascoltiamo. Perché non lo lasci giocare a football, Troy? Vuole solo essere bravo come te. Non voglio che sia come me. Voglio che la sua vita somigli il meno possibile alla mia. Tu sei l'unica cosa decente che mi è mai capitata. E questo glielo auguro. Ma non gli auguro nient'altro della mia vita. 17 anni fa ho deciso che non avrebbe praticato nessuno sport, non dopo quello che mi hanno fatto nel baseball. Perché non ammetti che eri troppo vecchio per giocare da professionista? Perché non lo ammetti e basta? Non venirmi a dire che ero troppo vecchio. Ero solo del colore sbagliato. Diavolo, ho 53 anni e potrei fare molto meglio di Selkirk. Anche adesso. Come potevi giocare a baseball? Avevi più di 40 anni. A volte non riesco a farti ragionare. Io ragiono, donna. Ragiono abbastanza da impedire a quel ragazzo di farsi del male con lo sport. Fai troppo la chioccia con lui. A preoccuparti se può o meno piacere alla gente. Tutto quello che quel ragazzo fa, lo fa per te. Vuole che tu gli dica ben fatto, figliolo. Tutto qui. Non ho tempo per questo, Rosa. Lui è vivo, è in salute. Deve sbrigarsela da solo, come ho fatto io. Nessuno lo terrà per mano quando affronterà il mondo. I tempi sono cambiati, Troy. Le persone cambiano. Il mondo sta cambiando e tu non riesci a vederlo. Beh, vabbè. Ma poi sono i momenti di un grande monologo, ovviamente non possiamo sbobbinare tutto il film, però ecco, avete riconosciuto Francesco Pannofino, anche lui un meraviglioso interprete su Denzel Washington. Lì è stato un rimbombo ping pong fra... E poi 5 attori nel film siete. Sì, tu, sì, sì. Tuo marito, i 2 figli e l'amico sì, di famiglia. Sì, struttura teatrale. Quello. E il pazzo fatto da Simone Mori, devo benissimo. Strepito. È un anno molto fortunato per Simone. L'ho chiamato per fargli complimenti. Con te non avevo questa confidenza di chiamarti all'una di notte, perché all'una ho finito di vedere il film. Ho chiamato Simone. Ho detto, poi tanto Laura la vedo domenica. Lo faccio in diretta, quello che... potevo fare all'una di notte, per cui quella è una cosa importante. Ma insomma, Laura, tu hai interpretato veramente dei personaggi indimenticabili e uno a quale sono molto affezionato, un altro piccolo film fra virgolette di questo regista franco-canadese che è Xavier Dolan, sì, questo giovane di 27 anni che ha vinto tutto. Veramente, no, tutto, ma poi ha fatto tutto, veramente. Sì. A 25 anni aveva già fatto 5 film. Come dice Woody Allen, le farfalle vivono 24 ore, ma il pomeriggio già c'hanno le palle piene. Cioè, sì. Così pure questo ragazzo. Cioè, 27 anni ha vinto tutto, a Cannes, qualsiasi cosa. Sono film che magari a qualcuno gli sfugge, ma dovete vederli perché questo. Che sono film, sì, molto particolari. Mami è meraviglioso. Mami è incredibile. Lui lì ha scritto la sceneggiatura, la regia, ha fatto la regia, ha fatto il montaggio, ha fatto tutto. Sì. Questo a 26 anni. Te sta un po' antipatico uno così ogni tanto. Come, no, un attimo, ma... ci sta. Quando ho visto l'intervista nel backstage, perché vogliamo vedere poi dopo il backstage, e devo dire che lui è veramente dagli edupizze di au, au. Ma la cosa la vuoi sbagliare? La vuoi sbagliare? Fa vedere che è pure d'essere un essere umano. E allora io voglio continuare. Come ti sei trovato? Lì, il direttore era Rodolfo Bianchi, conoscete perfettamente, uno che imita la mia voce, poi, vabbè. Che mi mette sempre a dura prova, e questa è stata un'altra dura, una prova molto dura, perché poi appunto altro personaggio molto intenso, pieno di sfumature, con un linguaggio appunto molto buttato, molto vero, molto realistico. Sì, questa storia quotidiana. Mamma, con un figlio, sì, con borderline, un figlio, esatto, un figlio borderline, anche lei in realtà un po' borderline. Sì, non è male pure lei. E quindi insomma molto, molto difficile, abbiamo speso parecchio sudore. Qui arrivano già i primi complimenti. Intanto saluto Valerio, anche se non c'è, ma saluto anche Leonardo, qualcuno, perché sono affezionati anche ai nostri tecnici, capito? Beh, io cerco giustamente di dare il valore che meritano tutti, perché certo, non è che giusto. Vai in voce tu e il microfono per magia si è acceso, le musiche entrano, no? I contributi, è un gioco di squadra. Ho visto il film, dialoghi e monologhi forti e brillanti, lei favolosa. Beh, sì, sono d'accordo. Bravi, bravi, bravi i genitori che hanno appoggiato la vostra passione per la recitazione, il teatro, doppiatori, fortunati perché non tutti i genitori finanziano i figli in settori considerati perditempo. No, è vero, c'è voluta un po' di fatica. Mamma e papà che fanno? Mamma e papà fanno tutt'altro, esatto. Papà era dirigente d'azienda e mamma casalinga, mamma chioccia, due persone normalissime, deliziose, sì, come me. Che sono sempre state molto affettuose con noi. Certo, quando io e Maurizio abbiamo deciso di intraprendere questa strada, tutte e due. Un po' così, diciamo, ho detto, ma veramente, ma poi a un certo punto quando hanno cominciato a vedere i risultati hanno detto sì, avete però ragione. Mi hanno appoggiato, insomma, anche comunque perché all'inizio sì, ci hanno sempre appoggiato. Non è che si guadagni chissà no, che cosa. No, assolutamente. Però insomma sono stati molto disponibili. Non erano convintissimi, però hanno detto: bene, se è questo quello che volete fare, che bello, è la vostra strada, quindi andate. Poi normalmente le storie degli attori sono costernate invece da persone che fanno: no, tu vai a lavorare, fai il cameriere, sì, il magazziniere, fai i lavori che qualunque ti permettono di essere libero. Allora quello certo gli piace a tutti. La Tom Cruise faceva il parcheggiatore, perché non sei rimasto a parcheggiare le macchine, ti avrebbe voglia da di a qualcuno, invece no, come Harrison Ford, eccetera, tutte persone che hanno, ma giustamente fatica, fatto tutti, altro, certo, ma sì, tutti sì, devono faticare per arrivare poi dove si arriva. Poi la costanza, il sogno, l'intensità con il quale ci credi ti ripaga in qualche modo, assolutamente. Per cui questo Mami è bellissimo, anche questo, scusate se reitero sempre questi aggettivi oggi, ma sono film di una grande intensità che non sono adatti soltanto a chissà che tipo di pubblico, se l'ho capito io, ragazzi, cioè vuol dire che si può fare. Io dico sempre, se ci sono riuscito io, potete farlo tutti. Sì, devi essere un po' dotato ma poi sono di qualcosa, film... ma insomma si capisce. Sono film un po' difficili da accettare, secondo me, da accettare, perché ovviamente gli argomenti non sono proprio leggeri. No, però ti resta, però fa sì, bene. Sì. Fa bene pensare. Fa bene pure al calcio, certi film fanno bene a tutto. Allora, cara Laura, io ascolterei anche questo momento dove tu doppi Anne Dorval, come si pronuncia, o Dorval, non lo so, però non lo sai neanche tu, vabbè, no, uguale. Però il film è Mami di Xavier Dolan, e ascoltiamoci una Laura a Romano, è un pezzo piccolino, però insomma, ascoltiamo. Lo metto nel bagagliaio. Guarda qua, guarda che ho trovato nel frigo. Cosa? Guarda. No, non era compito mio. Sì, io te l'avevo detto. Avete chiuso sul retro. Aspetta. Che io ti amerò sempre di più. E tu mi amerai sempre meno, questa... È la natura, è così. È così che fa. È l'ordine naturale delle cose, Steve. Vedrai che un giorno lo capirai. Capito quello che ho detto? Capito? Ehi, hai fatto la borsa come ti avevo chiesto? Ecco, io questi sono soltanto alcuni, un momento, insomma, tanto per farvi respirare. Sì, le musiche erano straordinarie. Ha fatto sempre lui. No. Le musiche no. Le musiche non ha fatto. Il bambino che c'aveva il genio. Francesca mi ha mandato tanti messaggi, grazie Francesca, qualcosa abbiamo letto. E c'è anche Dino Capuano, che è un altro affezionato. Ciao Pino, una bracciatella bellissima e bravissima, Laura Romano. Tra i suoi tantissimi lavori ho amato particolarmente la sua Sofia Vergara, Gloria di Modern Family. Sono molto attenti, ne sanno più di noi. Sì. Un suo saluto. Abbiamo un pezzo di Sofia Vergara? Che è Fuga però in tacchi a spillo il film. Ci abbiamo tutto. Però Dino vorrebbe un saluto con la voce del suddetto personaggio, sarebbe bellissimo. Vuole farci una segreteria telefonica. Un saluto con la voce di Sofia Vergara. Di Modern Family. Saluta Dino Capuano con la voce di... Ciao Dino Capuano, sono Sofia Vergara. Come stas? Ciao! Hai capito? Capuano, pura segreteria telefonica, così, va bene. Noi ce l'abbiamo Sofia Vergara, invece in un film, è tratta da un film che è Fuga in tacchi a spillo. Fuga in tacchi a spillo, anche sì. Qui è sudamericana? Sì, sì, sa, perché lei ha questo accento, lei parla benissimo l'inglese, però chiaramente l'hanno... Credo sempre sì. Un po' presa per questo, perché ha questo accento colombiano. Lei è colombiana. Tu parli bene il sudamericano e lo spagnolo? Allora, io ho studiato spagnolo, però l'ho studiato tanti anni fa, quindi ho perso in pratica completamente il vocabolario, però mi è rimasta molto il in suono. Testa il suono. Se lo e leggo, poi il lo sudamericano leggo è diverso, me l'ha insegnato un antropologo che conosco, che lo spagnolo è sta coscia, è sempre... Il colombiano, il colombiano somiglia al veneto. In realtà è un po' questa cadenza un po' veneta, ma sembra veneto, è così, e il colombiano è così, ha un accento un po' diverso. Ma mi devi dire qualcosa, io so, parlami riesco, di questo film, parlami di Modern Family. Come mai ti sei trovata bene a fare Sofia? Mi sono trovata molto bene a fare Sofia Vergara in Modern Family. E sta che se andiamo tutti quanti stasera a ciccare un uguale. Po'. Va bene. E chissà, ni altri. Io chiedo ad Alessia Navarro, che parla benissimo spagnolo e sudamericano. Abbiamo un capoprogetto che parla... È così? Vieni di... Ciao? Come ciao? Stai entrando in voce, Navarro. Dimmi qualcosa in sudamericano, Navarro. Tu hai fatto Frida Kahlo pure, dai. No, lei è di Trieste, però... Ah, okay. No, scherzo, no, stava parlando in sudamericano. Va bene, allora ascoltiamo la Sofia Vergara con la voce ovviamente di Laura Romano. Vai! Signora Riva, dobbiamo andare. Ma guardati, se così minutina sembri un cagnolino da mettere in borsa. Però Cortez ha ucciso tutti i testimoni che avevamo. Lei è in pericolo, signora. Ma andrà tutto bene. E riguardo a mio marito. A parte il suo marito, andrà tutto bene. La testa Cooper è alta circa 1,50 m. Ma che no? L'altra sospetta sui 45 anni, latina. 45? Ai, madre. Dobbiamo nasconderci per un paio d'ore. Allora, puoi aiutarci? Il tuo sorriso mi piace. Non sai proprio niente di me. Ho visto la tua biancheria. Le voglio coprenti. Non sono mutande, è un panolino. Io so tutto quello che c'è da sapere. Sono la sua amante. Trovatele subito. Dobbiamo scappare o ci uccideranno entrambe. Reggimi il gioco. La signora Riva sta per avere uno di quei problemi femminili. Non riesce a tenersi. No, vede? Una volta al mese il mio utero si sfalda all'interno. Si sfalda? Come no? Così che gli ovuli scendano quindi nel mio... Oh mio Dio! Muero de ganas de verte entre rejas. Tu parli spagnolo? Cállate tu bocca! Gringa chiquitic. Bocca muy gorda. Simplona. Bello, ma che ritmo. Con questo Federica il De Borto ci siamo divertite come due pazzi. Chi era che dirigeva questa follia? La dirigeva, sì, Stefanella Marrama. Va bene. Fra donne avete fatto questa cosa. Sì, ci siamo divertite tantissimo. Ma ti devi divertire quando lavori. No, ma anche se ma sono drammatico. Facciamo le cose drammatiche, ci divertiamo. Divertire. Assolutamente. Io dico sempre, pure un chirurgo, mentre opera a cuore aperto, si deve divertire. Assolutamente. Non tagliare una aorta e sbagliare. No. Ma devi amare quello che stai facendo. A proposito di un altro film invece, Precious, che è un film, un altro altro molto particolare, molto, no? Particolare, sì, molto Vince difficile, molto questa duro. Donna cicciottona, esatto. E, io li doppiavo Monique, e quando c'è stata la presentazione del film venne anche il regista Lee Daniels, e all'inizio, prima della visione, ci disse: guardate, il film è molto difficile, all'interno del cast oltretutto c'erano persone che avevano subito violenza da piccoli, e lui ci disse: non vi preoccupate, è un film forte, ma se vi viene da sorridere fatelo, perché noi abbiamo riso molto durante la lavorazione, sì, quindi sì, è importante, perché aiuta assolutamente intanto a non prendere sempre sul serio quello che si fa. E ti aiuta appunto ad alleggerire e magari a mettere anche più intenzioni poi, no? L'autoironia nella vita, esatto, ci salva la vita, esatto, in tutte le condizioni, in tutte le situazioni. Secondo me, non lo dico io, ma Francesca, secondo me sono film particolari e devi avere un senso critico, quelli che abbiamo nominato finora ovviamente, e una visione olistica, una forte sensibilità e attenzione per poterli apprezzare. Hai capito che ascoltatori qui hanno utilizzato almeno tre termini che non conosco. No. Capito? Però lo leggo con intenzione, come quando leggiamo un film che non conosciamo e neanche la trama, ma lo facciamo in modo tale che sembra che l'abbiamo vissuto e invece non abbiamo capito niente. Però insomma non è soltanto questo. Senti, che cos'è questo Curvy Pride? Che non c'entra niente col doppiaggio. Che cosa hai combinato? Pride. No, io non ho combinato niente. Questo Curvy Pride è una creazione di Marianna Preiato, che è questa mia amica di Bologna, e insieme a mio marito Francesco Saverio Morese, con Simona D'Aulerio, è una sorta di un movimento che dà sostegno alle donne curvi, cioè e propone propone la donna curvi. Tu sei curvi, no? Io, tu sei dritta, sei una linea retta. No, cioè, non è vero, io sono stata curvi, però anche abbondantemente curvi, insomma. Però ecco, è quello. Beh, adesso scusami Laura, non te... adesso... Io insieme non ci potevamo stare prima quando eri curvi? Ci potevamo stare, no? Sì, non era... sì. Però insomma sembra una cosa giusta, ma io ho sempre paura che quando si sottolinea una diversità fra virgolette, sì, si tende poi a come ad escluderla, non lo so, io sono a favore di tutti i movimenti importanti, non è che discuto il gay pride, cioè assolutamente. Poi io questo però non è un movimento che esclude il resto, cioè che semplicemente dice esiste tutto, quindi certo, anche questo, cioè anche l'essere curvi è un essere bello, è un essere se stessi, l'orgogliosi per esempio, come esatto, uno sta bene con se stesso, cioè sì, se una persona, conosco tante persone in carne che sorridono, sì, no, un'altra dimagrita 30 kg non rideva più, no, dico ma non era meglio prima che ridevi, esatto, cioè eri bella, aveva il suo perché. Uno deve stare bene con se stesso, è ovvio che se poi il problema diventa un problema fisiologico, cardiologico, eccetera, no, bisogna stare attenti. Certo, quello sì. Però insomma, no, autoescludersi, vabbè, parlo io che sono perfetto fisicamente, per cui è ovvio, facile per me parlare quando c'hai un corpo scolpito come il mio, no Laura? Sì. No, è falso, sto sì, no, era finto. Vabbè, siamo in radio, possiamo dirlo, sei scolpito. No, ma hai detto quel sigo. Si vede anche dalla camicia che ma c'è l'hanno questa, capito dal... questo... No, là, niente, no, stai arrampicando sugli specchi. No, no, non niente, era, già non quella c'era pausa quando non ha retto. Vabbè. No, no, ma io ovviamente sto scherzando. Che se va, qualcuno magari ci crede, dice ma che si crede sto pazzo. No, tu poi anche tu hai alternato nella tua... Teatro ultimamente, ma insomma, ultimamente chiudiamo, scusami, no, chiudiamo il discorso sul curvi. Esiste questa realtà? C'è un sito? C'è qualcosa? C'è qualcuno a cui... delle persone che lo vivono magari con un'ansia, con un'angoscia, curvy, non si sentono pride, belle? Sì, no, esatto, c'è un appoggio anche esatto, psicologico sì, importante, sì, immagino. Sì, sì, sì. Cioè, io sono entrata in questa cosa perché appunto essendo stata una curvy malata tanti anni fa, io ho avuto un grosso problema, insomma avevo un adenoma surrenale che mi comportava una pressione arteriosa molto importante, alta, e ero molto gonfia, ma molto gonfia. Cortisonica, cosa, tutto? No, cioè, era proprio un problema ormonale, ormonale, problema ormonale, producevo troppo aldosterone e questa cosa mi ha portato per 3 anni a visite varie, certo, insomma... ricoveri, non si capiva, insomma, non si capiva esatto da dove arrivasse. Alla fine poi hanno scoperto questo problema e fino a quel momento io avevo fatto una serie di diete, e la dieta certo, per dislipidemici e la dieta per dimagrire, sì, sì, ed era in un periodo, in un'età insomma difficile per me, avevo 16 anni, fino a 19 anni non avevamo, non siamo riusciti a capire bene cosa fosse. È lo startup della vita lì, quando e perdi quindi, sicurezza in te stessa in quel momento. Una volta scoperto il problema, io sono tornata ad essere una persona normale. Da quel momento in poi ho detto basta diete, basta, io devo stare bene. Quindi la cosa fondamentale è quella, e questo promuove il curvi, cioè la dieta del cervello. Esatto, la dieta proprio del cervello, cioè stare bene, stare in salute, ma non preoccuparsi di pesare 45 kg. Esatto. Però con te magari era il problema era più importante, perché c'era un problema fisiologico importante. Esatto. Ora, se il problema è ovviamente ormonale, della tiroide, eccetera, diventa ancora più grave, certo, perché dici ok, io accetto quello che accetto, ma sto male, esatto, per cui devo intanto guarire la realtà. Ma e poi quindi... non voglio ovviamente addentrarmi in un discorso che a livello psicologico ci sono persone più importanti di me che hanno più coscienza di me per parlarne, però insomma l'importante è che tu ne sia uscita bene, soprattutto sì, a livello fisiologico, sì, e che tu possa grazie a questo aiutare delle persone che invece si trovano in grande difficoltà, e questo è giusto, è giusto. E allora torniamo invece alla tua vita artistica. Tu hai fatto Scary Movie 3, io ho fatto il primo. Ho fatto il primo, bella, il fantasmone e quell'altro pazzo. E tu hai fatto Queen Latifah, che è un'altra, sì, attrice straordinaria, una, sì, showgirl, showwoman a 360 gradi. Io me l'ascolterei. Chi l'hai fatto questo? Chi era il... l'oracolo di Matrix qui. Era Marco Scary Guadagno? Movie. No, chi, ma Scary Movie mi sa che è una cosa piuttosto è vecchia. Vecchia. Sì, sì. Possibile, sì, sì. Tonino addirittura? È possibile, a sia Tonino a colla sicuramente, sì. Forse Tonino anche a colla. Anche da pane per i suoi denti questo. Sì, poi. Sì, sì, sì. E noi ce l'ascoltiamo, Queen Latifah in Scary Movie 3, dove fai l'oracolo di Matrix, sì, anche se non c'entra niente Matrix. Assolutamente. Film che prende in giro tutti i generi. Vai! Si è Shaniqua. Bingo. Ma puoi chiamarmi l'oracolo. E non preoccuparti del vaso. Quale vaso? Oh, scusa, non sapevo. Oh, scusa. Quel vaso. Prego, siediti. È stata la poltrona. Sì, la poltrona. Lo so perché sei venuta. Hai un grande mistero davanti a te. Ma non devi sfuggire alla sfida. Solo tu potrai essere colei che riuscirà. Orfeus. Che c'è, amore? Tesoro. Sto guardando la partita. Ti dispiacerebbe? I Lakers vinceranno con 12 punti. Allora, puoi dirmi qualcosa? Della cassetta? Sì, l'ho guardata e poi... Ha squillato il telefono. Esatto, e poi una voce ha detto... Che saresti morta entro 7 giorni. Questa storia sta diventando... Estremamente fastidiosa. Sì. Pensa essere sposato con lei. Mi rompe le palle su donne che ancora non me l'hanno data. Scary Movie, devo dire che è una trilogia bellissima. Mi arrivano dei messaggi, questo non lo so, non credo. Borderline, l'hai detto, t'ho sentito, sì, l'ho detto. Mo non è per seguire l'orgoglio francese che si incazza e protegge la propria lingua. È perché non so cosa si intende con borderline. Che si intende? È una persona al limite. Sì. Si è sempre stato utilizzato per questo, ma non è francese. No. Borderline è inglese, è entrato come bye bye nella consuetudine, come bravo in tutte le, sì, lingue. Sì, borderline si utilizza una persona che vive al limite di tutto, insomma, si dice borderline, è come Blade Runner, non so perché c'è, poi non è francese. Non è borderline. No. Cioè, ho detto borderline. Questi, vabbè, certe mi riprendono ed è giusto che sia così. Questo però l'ho letto perché non so per quale motivo mi stai riprendendo. Però se me lo spieghi io accetto. Poi anche di chiamarmi, cioè, in diretta, tranquillamente. Non ho paura di fare brutta figura, assolutamente. Senti, dopo però mi devi leggere qualcosa. E che ti leggo? Non so, abbiamo scelto, normalmente facciamo anche delle cose a contrasto, non so. Qualcuno ha letto come si montano le mensole. Bello. Sì. Qualcuno, Domitilla d'amico, l'ha fatto in esercizio di stile. Immagino. Per cui ha avuto quasi 200.000 visualizzazioni. Dice, uno fatica così tanto nella vita. Oppure Rodolfo Bianchi, come si monta, come funziona una lavatrice, tante volte. No, per far capire quanto la voce è importante. Allora, noi stiamo per andare in pubblicità fra 30 secondi. Vi ricordo che staremo ancora con Laura, che rimarrà ancora un po' con noi, perché ci saranno, lo sapete che c'è questo concorso, talent, questa gara, chiamiamola così, fra giovani o grandi. L'importante è che abbiate più di 18 anni. Di questo talent è voluto fortemente da noi, da Radio 24 e dalla Warner Bros., che mette a disposizione un film dove un paio di ragazzi, o quattro, due uomini e due donne, faranno magari un ruolo, un piccolo ruolo, quello che sia, all'interno del mondo del doppiaggio, e dare la possibilità a questi giovani, magari vivono fuori, lontano da Roma, cioè non hanno la possibilità di poter partecipare e realizzare così magari un sogno e cominciare un percorso nuovo. Per cui Laura, ti chiedo poi di rimanere 10 minuti in più, se puoi, a giudicare almeno qui, perché poi giudicherà una commissione certo, reale. E basta, va bene, andiamo in pubblicità e a fra pochissimo con Laura Romano e poi fra un po' con i nostri amici. Bye. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy, 14, 35 minuti e 20 secondi, perfetto, per dire siamo in diretta. Laura Romano al mio fianco, stiamo percorrendo la sua bellissima carriera di attrice e di doppiatrice. Tanto doppiaggio, ma il teatro poi l'abbiamo abbandonato. Il teatro l'abbiamo abbandonato, no. È vero? No, no, no. No, teatro, Laura, no, beh, è stata, insomma, è stata esperienza che ovviamente uno... A un certo punto ho dovuto per forza decidere, ma è sempre nel mio cuore. E ho fatto tante cose, ho fatto prima ovviamente spettacoli a Roma nei teatri off, poi sono entrata finalmente nel grande teatro, ho lavorato con Padroni Griffi, ho fatto i sei personaggi in cerca d'autore. E allora? E poi... Ma che facciamo? Lavoriamo con i grandi e poi ci dimentichiamo? Nella compagnia di Albertazzi con Mariangela D'Abbraccio abbiamo fatto... Nella città l'inferno, uno spettacolo meraviglioso con Giorgio, Simona Cavallari. Ospite qui la prima puntata di 3 anni fa, Giorgio. Non si dimentica. Che persona meravigliosa. Grande, attore straordinario, ma un uomo meraviglioso. No, sì, sì, quello è proprio... Mi manca, ci manca un po' a tutti. Sì. Arrivano tanti messaggi, ma che c'entra dai e Forza Magica Roma adesso, perché io sono un povero laziale, dai! È una cattiveria. Lo dico questo. Sempre, si vive in una società multilaziale, per cui insomma siamo liberi e tranquilli di partecipare a tutto questo. Ah, ma è arrivata una cosa molto divertente anche per te, però io vorrei che prima mi leggessi... La tua maniera, visto che tu c'hai il teatro dentro e la voce, qui siamo poi per radio. Abbiamo scelto una poesia di Pierpaolo Pasolini dedicata alla madre e vorrei che tu la leggessi. Sapete perfettamente che i miei colleghi li metto sempre a dura prova, come ce lo mettono noi. Entriamo in sala, c'è il copione lì davanti che nessuno mai ha letto. Ti raccontano un minimo di trama, perché poi un attore meno sa e meglio è. E allora abbiamo fatto la stessa cosa. Dopo invece farai un'altra cosa molto carina, che consigli per trovare marito. Ah, che bello. Tu sei sposata, Laura? Sì, sono sposata, ho tre figli. Tre figli? Te credo che non fai teatro, non c'hai tempo, ma fallo teatro, esci. Porta tuo marito a un centro per farlo, no, bloccare in qualche modo. Se ferma, no? Se può fare. Magari. Vabbè, adesso basta. C'ha un varicocele, magari, c'ha qualcosa. Che salutiamolo, come si chiama tuo marito? Nome Francesco. Ciao Francesco, tranquillo, qui è serena, insomma. Quanti anni hanno i tuoi figli? 10, 8 e 5, ecco. Alessio, Sofia e Lorenzo. Basta, no? Sì, bene, adesso sì. Basta, ma sono troppo grande. Loro vorrebbero qualche altro fratellino, ma... Qualche altro? Sì, qualche certo, altro. Tutti insieme a passare. Almeno un fratellino e una sorellina, ma... Ma certo, fai i gemelli e ti toglie il pensiero. Certo, sì, cioè, basta, fai... No, c'ho la schiena che non mi regge più, non ce la faccio più. C'è del 70, non sai venire, cioè... Abbiamo 47 anni, sì. Ancora si può fare, dai. No, vabbè, basta. Francesco, preparati, fra un po' torna. Fai uscire i figli, sono piccoli, non li mandi al cinema. Senti, sta preparando Mauro Meconi, il rumore che sentite, perché poi... A proposito, quando venite sul nostro sito, che già ha tantissime like, perché ormai andiamo avanti a like, una volta vendevi tanti dischi, adesso dai tante visualizzazioni, cercate di metterlo come il pulsantino, vi piace la trasmissione, vi piace quello che facciamo, siete 108.000 a essersi segnati per questa gara, mettete un piccolo click anche lì, se vi piace ovviamente. Mauro è pronto con la cuffia e l'inquadratura, che poi metteremo ovviamente sul nostro sito Facebook di Voice Anatomy, tanto tanto seguito, e a Laura con una musica di sottofondo che Leonardo, ecco, questa ci piace. E allora Laura Romano in una bella poesia dedicata alla madre di Pierpaolo Pasolini. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu. Ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia sola schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita. L'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, non voler morire. Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile. Lasciala sotto sta musica, ci sta prendendo un attimo di dolcezza a tutti quanti. Brividi, dice Mauro, a fior di pelle. Eh sì, sì sì, bello, bello. Vedi, questa è una trasmissione che la sua replica notturna gli fa bene, perché queste sono cose anche che vanno in questa grande intimità. Sei commossa? Io sì, io mi commuovo facilmente. No, non è facilmente, quando si parla di una madre poi... È così. Tutti dovrebbero avere per sempre una madre. Sì. Per sempre. Va bene, stavo pensando alla mia, e l'ho salutata con il pensiero, e chiunque di voi l'abbia persa in qualche modo, sappiate che non è mai persa una madre c'è sempre, saremo sempre figli, è incredibile, tu puoi essere madre a tua volta, ma sei comunque ancora figlia. Vabbè, ci sta anche questa, voi sanatomi, no? Cioè, esiste. Vabbè, fra un po' darai consigli per trovare marito. Chiedo a Rachele quando chiudiamo questo, perché devo sapere quanto tempo abbiamo ogni volta fra un blocco e l'altro. A 45 mi dicono, insomma, è giusto. Sottolineo, abbiamo ancora. Vabbè, te lo faccio fare al blocco dopo. Va bene. Intanto ci sei, di donna a casa. Meno ci stai a casa, meglio è. No, Laura. Adesso tanto c'è mio marito a casa. Ecco, lascia Franceschino e fagli capire. Ci stanno ascoltando anche. Ci stanno ascoltando. Sì, sì, ci ascoltano. Ma sono tutti e tre lì. Sì, sì, poi c'è uno dei tre, poverino, che ha divanato, come stiamo dicendo in questi giorni. Che c'ha febbre? Che c'ha? No, si è fatto male, ha un gesso alla gamba. Che fa? Perché ma quello di 8? Quello più grande, quello di 10. Che fa? Giocato? Perché, giocando dentro casa con gli altri due, si stuzzicano continuamente. Quindi non è che litigano, stuzzico, si chiama camorra, si chiama qualcosa, come se stuzzicano. Si massacrano, ci abbiamo provato in tutti i modi, dicendoglielo con calma, dicendoglielo arrabbiandoci. Ma anche, tibia e perone, che ha fatto? No, si è staccata la cartilagine al ginocchio. Quella da crescimento, perché questo è un periodo in cui i bambini crescono. E quindi niente, adesso è lì sul divano che si gode televisione. Va a scuola ugualmente? Giochi. No, fino a lunedì no. Capito. Dalla settimana prossima. Ha voglia cartilagine, mamma. Non sei l'altra cartilagine che mi fa male. Sì, loro sì, questo è un periodo che rischi quando ti rompi la mano che rompi la cartilagine da crescimento. Oppure sì, se rompi anche un osso, perché ma ringraziando Dio. La cartilagine facciamo in tempo, no? Sì, non mette scuse, sì. Come si chiama? Alessio. Alessio, non mette scuse, non piange dal dolore. Ci ha giocato gente più importante di te con tanto di cartilagine in meno, come Van Basten. Poi ha smesso, ma c'era 40 anni, insomma. Senti, tesoro mio, teatro non lo smette, ti prego, riprendilo, perché è giusto, attori bravi, attrici brave devono continuare. Sì, tu la voglia c'è, però chiaramente il tempo, sai, i turni di doppiaggio, poi i bambini. Io non voglio togliere altro tempo ai bambini, mi dispiace già così ogni volta che torno dico, no, certo, quando hai doppiato Mammi, per te è stata una contrapposizione, mamma mia, terribile. La tua nemesi, quella l'ha mandato dentro un manicomio, sì, esatto. Per cui cosa che non faresti mai. No, non darebbe assolutamente la vita per i propri figli. Your Majesty, che non so che significa questo messaggio. Your Majesty, sì, sua maestà, ma perché Once Upon a Time. C'era una volta, faccio la regina che scrive in C'era una volta. È vero, ormai sei tu, cioè, è vero, quante cose fai. Anche Iar hai fatto tu. Iar, è stata una cosa fantastica. Io lo chiamo Er perché so di Roma, per cui è Er, Er pronto soccorso sarebbe. Se lo sentiamo un pezzetto di Maura Tierney? Maura Tierney. Mazza, grazie. Io che lingue veramente. Cioè, uno dei tre che mi ricordo. Tanto se non mi riprendevi te, mi riprendevano loro, per cui tranquilla. Ascoltiamolo, E.R. Moratini. Mi sembra di essere tornata al ballo di primavera del liceo. C'ero andata con un certo set, ma in realtà avevo una cotta per un certo Tim. Oh, povero set. Beh, e quando lui andò al bagno, Tim mi chiese se volevo uscire a fumare una sigaretta. E dopo non rientrammo più. Che crudeltà. Lo so. Bene, era Maura Tierney, che lo sapevo perfettamente come si pronunciava. Ti sto facendo leggere in anticipo, andiamo un attimo in pubblicità, questo come conquistare un uomo. Così che tuo marito Francesco, stai tranquillo, è solamente un gioco verbale. Me lo fai casomai in esercizio di stile con tutte le voci che puoi conoscere, divertendoti un po'. Fra pochissimo con Laura Romano e poi con i nostri amici che sono già arrivati da tutta Italia, sono in sette, e li giudicheremo, li accompagneremo, li coccoleremo e gli daremo fiducia e speranza. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 14:46, anzi quasi ormai 47 minuti primi. C'è sempre Laura Romano con me, fra poco cominceranno ad alternarsi a questi microfoni questi ragazzi e ragazze venuti, c'è anche un uomo maturo venuti un po' da tutta Italia per questa scrematura che riusciamo a fare fra le centinaia, anzi ormai migliaia di richieste che arrivano. Qualcuno ci chiede gentilmente come si fa, noi l'abbiamo detto più volte ma non mi affatica ripetervelo, anche se sul nostro sito di Voice Anatomy di Facebook lo spieghiamo benissimo. Dovete mandare martedì e mercoledì insomma i vostri file di un minuto, tratti magari un monologo tratto da un film, e da lì faremo la prima scrematura per partecipare in diretta alla trasmissione. Però ve lo dico e ve lo urlo ormai da 4 settimane, nessuno resterà indietro, nel senso che tutte le persone le ascolteremo e vi faremo venire a Roma, magari in un teatro dove io lo affitterò per una giornata o due, secondo quanti siete, e vi ascolteremo tutti e daremo a tutti la possibilità di partecipare, perché mi sembra giusto che sia così, anche se non siamo X Factor o Italia Got Talent. Riusciremo in qualche modo a darvi questa possibilità, grazie a Radio 24 e grazie alla Warner Bros. Poi Laura, sei straordinaria, mi hai fatto piangere, e ti voglio un bene infinito. Per certe cose portano l'affetto. Ma sai, grazie. La voce, io, si dice gli occhi sono specchio dell'anima, secondo me anche la voce è lo specchio dell'anima in qualche modo. Dalla voce ti rendi conto chi hai di fronte, spesso e volentieri, non può bleffare. Sì, noi siamo bravi. Mai parlare con un doppiatore o una doppiatrice per telefono, rischi che quello stia piangendo ridendo e non te ne accorgi. Basta mettere un po' di saliva fra le labbra, ecco lì che diventa pianto immediatamente. Certo. Noi speriamo che attacchi presto. Gli abbiamo dato a Lauretta mia, bella adorata, per trovare marito. E lì me lo fai come so, con la spagnola, come Viola Davis, come vuoi tu, insomma diverti, o come Laura. Vediamo che cosa hanno trovato per te. Anche qui ovviamente lei non sapeva nulla, neanche io, pensate un po', meno male che c'ho degli autori. Vai Leonardo. Yeah. La premessa è fare molti provini. Per questo vi suggerisco anche uno speed date. Io mi sono preso un bel po' di tempo prima di trovare quello giusto. Ma se il tempo stringe tanto, tanto vale usare una scorciatoia, e come casting lo speed date è perfetto. Ma partecipare non basta. Ci sono un po' di regole da seguire per trovare la persona giusta. Le bugie hanno le gambe corte e le tette piccole. Sarò pratica. Va bene il tacco, il push-up, la guaina contenitiva, ma apparire per quello che non si è non paga. Vi consiglio di uscire, prendere aria, conoscere gente, chiacchierare. Altrimenti, come e dove pensate di farli, provini? Vai sul dramma, vai Laura. Inutile tirarsela con frasi come «Io non mi sposerò mai». O peggio ancora «Non sono una da legami forti». E poi tornare a casa in lacrime. Inutile perché se uno sta uscendo con voi alla vostra età, magari ha intenzioni più durature di una serata. Altrimenti ne cercava una più giovane. Ecco, l'ho detto. E adesso basta fare le galline e le vampo. Come cavolo vi sentite quando vi tirate a lucido per una serata al cinema che neppure fosse un invito alla prima della Scala? Ovviamente ogni riferimento a conoscenti round 35 che mi capita di incontrare spesso è davvero voluto. Un sudamericano per chiudere, vai. Uscire in simbiosi con il vostro migliore amico non vi aiuterà a trovare marito. Se devo essere utile, devo dare consigli utili, no? Ecco, uscire con un amico gay col quale si finge spesso di essere fidanzata non aiuta. Essere sul mercato è un'attitudine. Laura Romano, signori, Laura Romano. Che bello. Ecco, mi sembra giusto anche invitare tutto il popolo plaudente. Che bello, grazie infinite, ti dicono gentilissimi, va bene. Le vostre voci sono straordinarie, no? In questo caso grazie. La voce di Laura, le intenzioni che poi fanno bella la voce, sì, anche bella la voce, certo, ma sono, le intenzioni sono ancora più importanti della bella sì, voce. Infatti non è così importante avere una bella voce. No, ci sono dei grandissimi che non hanno una bellissima. Assolutamente. Amendola non aveva una bella voce. Per niente, però era un grande. Dice, bella voce aveva Pino Locchi, Peppino Rinaldi, Cigoli, Panicà, avevano la bella voce. Amendola era una bella vociaccia, ma che gli era vuoi un fenomeno. Assolutamente sì. Allora, però parliamo di un altro film bellissimo che è Memoria di una Geisha. Ah, Michelle Yeoh. Esatto. Sento delle voci. Ah, che succede? Va bene. Ah, bisogna abbassare la cuffia di là. No, perché Mauro, giustamente, eravamo in diretta su Facebook e lui, per far sentire anche la musica insieme, deve mettere la cuffia sul telefono e riprendere mentre. Certo, così certo, almeno sennò... tutto completo. Memoria di una Geisha è un film bellissimo. Bellissimo, difficile. Fatto con Francesco Vairano, sì, altro grande direttore, grandissimo. Sì, sì. E... di chi era la regia? Era Jean Gimoun, non so, non mi ricordo. No, non credo che era Jean Gimoun, non credo. No, non mi ricordo. Non credo, se non c'era la sua cinesina preferita che non la fa, quella di Lanterne Rosse. No. Che non no. mi ricordo, bellissimo. No. Questo Memoria di una Geisha è bello, sì, intenso. Molto, bellissimo. Molto bello. È stato uno dei film più belli che ho fatto. Ah, sei sì, affezionata a questo? Sì, sì, sì, molto affezionata a lei, molto affezionata al tipo di recitazione. A, è quello difficile, sì, perché orientale. Sì, proprio all'atmosfera che c'era nel film. Sono suoni particolarissimi, sì, quando si doppia un film cinese o coreano o sì, giapponese. Sì, sì, sì, perché hanno delle intenzioni diverse, sì, hanno un modo proprio di esporre totalmente diverso dal nostro. E quindi metti insieme la traduzione, l'adattamento, la trasformazione del senso della parola, sì, certo, non t'aiuta della frase suono in italiano. No, no, no, no. Anche le espressioni che sono sì, minime, loro esatto, hanno proprio fanno sì, nulla, poco, pochissimo. E tu gli devi entrare metterci, nella faccia. Sì, mettere su quella faccia delle intenzioni forti, perché poi erano molto forti anche quelle del. Sì. E noi, dai, ascoltiamolo un momento di Memoria di una Geisha. Il nome dell'attrice l'hai detto tu adesso. Michelle Yeoh, meno male che l'hai detto tu, ti ringrazio, ecco. Il barone è un uomo molto speciale per me. Il mio Dan. Un giorno, se sarai fortunata, anche tu avrai un protettore. Non inginocchiarti. Tu non sei più una serva ormai. Vieni alla luce. Vedo acqua in te. Questo le dà dispiacere? L'acqua è potente. Può scavare la terra, spegnere il fuoco e distruggere il ferro. Ma tu non hai fatto ricorso a questi poteri, vero? Riguardo al suo kimono. Puoi scusarti se lo desideri. Questo è un inchino perfetto per un'allevatrice di maiali. Non lasciar cadere la testa, punta delle dita unite, gomiti in dentro. Nessun peso sulle mani. Bello. Sì. Bello, lasciamolo pure sotto, Leonardo, ti ringrazio. Non sono sciocca, zio. Bello, adesso intenso. L'ho ritrovata in Star Trek. Ah, l'ho ridoppiata in Star Trek, la serie Discovery nuova. Adesso, sì. Discovery, sì, con Marco Mede che dirige. Sì, esatto. Mi hai chiamato, ma non potevo andarci. Non posso fare Star Trek. Stavo in giro con la mia astronave, non potevo starci. Tu sei proprio specializzata in questi ruoli femminili con un grande risvolto etico-sociale, eh? Cioè, non è... il primo, abbiamo detto Mami, abbiamo detto Barriere, sì, cioè film Ma ti chiamano, penso che tu abbia dei problemi importanti che possa risolvere in sala. Evidentemente sì. Chiamiamo Laura, che oltre a essere brava, c'è quel problema come risolve. Che poi non hai visto mai che magari l'aiuta. Esatto, c'ha tre figli, ci avrà un problema con qualche figlio, poi gli fa mammi. C'era un problema con un marito che si sente un pazzoide. Francesco non è come Denzel Washington. No. Non è un pazzo. No, no, assolutamente. Un ruolo bellissimo. Allora, ce l'ho ancora nel cuore, che ho finito di vederlo ieri notte, per cui ve lo consiglio vivamente. Va bene, Laura, tu resti con noi. Adesso si alterneranno questi ragazzi, anche, cioè, ripeto, anche una persona un po' più grande. Così, un giudizio benevolo, anche perché vale tutto il contrario di tutto, cioè, okay. Anche mi hanno detto tu non farai mai questo mestiere 35 anni fa, invece eccomi qua, per cui anche un giudizio che non sia positivo può soltanto servirti come sprone per affrontarlo e dimostrare, certo, a qualcuno quanto hai fatto male a non scegliermi quel giorno. Speriamo di non sbagliare, no. E allora tra pochissimo, sempre con Laura Romano e questi straordinari ragazzi che si sono fatti parecchi chilometri per venire qui da noi. Sono le 15. GR24, il sole 24 ore. Buon pomeriggio dalla redazione, buon pomeriggio da Anna Migliorati. Appuntamento anche alle 15 oggi con GR24 per darvi tutti gli ultimi aggiornamenti su quanto sta accadendo in Catalogna. Ricordiamo che la Guardia Civile e la Polizia Spagnola è intervenuta con la forza già da questa mattina per impedire il voto per il referendum indipendentista nelle strade della città della Catalogna, a Barcellona ma anche a Gerona, e sono stati sparati proiettili di gomma contro la folla. Ci sono 38 feriti ufficiali secondo Madrid, mentre il governo locale, una conferenza stampa poco fa, ha parlato invece di numeri ben maggiori, 337 tra feriti e contusi, alcuni in gravi condizioni. Sono state sequestrate le urne, in alcuni casi già piene, staccato il collegamento internet con i seggi. A parlare poco fa a difesa di quanto sta accadendo è stata la vicepresidente del governo di Madrid, Soraya Sáez de Santa María, che ha difeso l'operato della polizia e poi ha puntato il dito contro il governo catalano. Continuare questa farsa non tiene nessun senso. No lleva a ningún lugar y deberían ponerle fin de inmediato. Aquí hay un responsable clarísimo y es el gobierno del señor Puigdemont. Continuare questa farsa, ha detto, l'avete sentito, non ha senso, va finita subito. L'unico responsabile è il governo di Puigdemont. La polizia, la Guardia Civile è intervenuta, ha detto ancora, in esecuzione di una decisione della giustizia. Dunque ha parlato di intervento legittimo anche contro la folla. Puigdemont ha aggiunto, agisce solo per sua ambizione. Dunque, toni non concilianti da Madrid, molti ancora in strada, c'è chi cerca di votare, polizia sempre in assetto antisommossa. Secondo la Generalitat della Catalogna, finora ha votato il 50% dei catalani, ma ripetiamo, con la polizia per le strade. È stato anche deciso che non si disputerà la prevista partita di calcio oggi tra Barcellona e Las Palmas per motivi di sicurezza. Il Barcellona aveva già chiesto alla Federcalcio spagnola di rinviare la partita, viste le tensioni, era arrivato un no da Madrid, ma poi poco fa, per motivi di sicurezza, la partita è stata annullata. Dunque, giornata ancora complicatissima, continueremo ad aggiornarvi, vi ricordo anche il punto a fine giornata con uno speciale a partire dalle 21. Intanto da Anna Migliorati ancora un buon pomeriggio, GR24 vi aspetta alle 16. Soundcheck, il suono della musica, di DJ Telesforo. Vi aspetto allora al Soundcheck di Radio 24 il sabato e la domenica a partire dalle 19.15 in collegamento con The Groove Monster Studio per un pieno di grande musica. Tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Anatomy. Eccoci, come dico sempre, bentornati, signori miei, che vuol dire anche signore mie, insomma, però signore mia sembra brutto. Laura Romano al mio fianco, abbiamo fatto un bel percorso con lei e adesso si alterneranno su queste poltroncine questi signori molto emozionati, a quali io dico sempre, mettete la vostra emozione dentro le parole e non sarete giudicati poi per questo, insomma, uno si sa dove siamo partiti tutti e si sa che quando uno si trova di fronte al provino o dà il meglio di sé e dici culo e vai, ci sono riuscito, oppure magari l'emozione gioca un brutto scherzo, a certe volte l'emozione invece ti dà quella carica in più. Anche noi quando lavoriamo, il teatro soprattutto, devi esplodere verso la gente con l'emozione che hai, insomma, tirargliela addosso, fargliela sentire. Chi vuole cominciare? Avete fatto testo o croce? Ma inizio io? Va bene. Buongiorno, buongiorno Laura, buongiorno Pino, buongiorno a tutti. Io sono Marco Montervino. Da dove vieni? Ho 32 anni e sono di Milano. Milano, benissimo. E niente, nella vita lavoro come programmatore e da diversi anni ho cominciato a fare dei ad avvicinarmi esatto a questa passione. Alla recitazione. Ho fatto corsi di dizione, recitazione, doppiaggio. Nel mezzo c'è stata anche una parentesi, diciamo, radiofonica con trasmissioni di intrattenimento. Si sente dal tuo ritmo, lo senti? Perché siamo passati a un brano straordinario degli anni 70 e che dire ancora di più di questa situazione. Il numero 10 della nostra classifica su Radio 24. No, vabbè, diciamo, erano più trasmissioni. Addirittura, grazie. No, erano più trasmissioni di intrattenimento, certo, con notizie assurde, imitazioni, scherzi. Fai anche imitazioni fai? Sì, un po' che mi diverto. Cosa fai? Vabbè, diciamo, una cosa che facevo era tipo una specie di una parodia dei programmi di cucina, scusa l'emozione. Ma dai, noi pensiamo, c'è manco qua, scusa, quando si impappiniamo. Avevo fatto uno sketch con la voce di Luca Giurato, avevo creato questo sketch che era Cotto e Giurato, dove lui in sostanza interveniva. Com'è? Buonasera a tutti, amici carissimi di Grace a Napoli. Ho il piacere di essere qua con Pino Imparo. Certo. E niente, sono qua per proporre il mio libro che è le ricette del gambero rospo di Luca Giurato, con tutte le mie ricette, come nel giro un paio, tipo spaghetti alla cartonara, certo, e pulla alla cascadora. Insomma, se volete trovate questo libro in tutti gli obitori tranquillamente. È vero che facciamo anche uno strike né un bolle quando dicevo le parole. Simpatico, brava persona, ma è vero che ti inoccolato nella quel voce. Quel piccolo difettino là che però lo rende unico, sì, dai, diciamo. Sì, l'imitazione è quella, riuscire a caratterizzare poi, certo, i difetti o comunque le qualità. Cosa mi hai portato, mio caro? Ti ho portato il monologo finale di Matrix, che insomma, capirai, è bello. Si chiama The Luca Award. Eccolo là. È quello di Luca o di Morpheus? No, quello finale di Neo. Quindi di Neo, Luca. Insomma, Luca Award. Insomma, diciamo che Keanu Reeves, insomma. Assolutamente. Ormai non ci possiamo prendere e impadronirci dei corpi che non sono i nostri. Non mi permetterei mai. No, cioè, ma che, allora al mio segnale scadete a st'inferno. Scadete all'inferno. Ho portato anche una base di sottofondo, insomma, che è quello del film, della scena. Hai dato dei soldi a Leonardo il fonico, perché lui per mandare pezzi di altri prende una cifra onesta. Non insomma, abbiamo Leonardo ancora contrattato. Vabbè, no, insomma, ci mettiamo d'accordo dopo. Leonardo, 10 euro, quant'è quando uno porta? Più o meno è quello. Vabbè, fa fattura, eh? Bene, sono contento per lui. Allora, ripeti il tuo nome e cognome e comincia a leggere, perché così li teniamo, sì, tutti questi file per poi far, certo, sentire alla commissione, che poi giudicherà insieme a noi, ovviamente. Bocca al lupo. Crepi, io sono Marco Montervino e ho portato Matrix. So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli. Senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Quello che accadrà dopo dipenderà da voi e da loro. Ok, allora, quando si mette un po' di forza, sì, si rischia di diventare filodrammatici, no? Melodrammatici. Quando uno mette, se tu lo fai più tranquillo, sì, più sereno, come se fossi proprio tu, soprattutto nel cinema, no? Questa recitazione cinematografica, quella del doppiaggio, che non è quella teatrale, che è completamente diversa, certo, o come uno speaker radiofonico. Prova a dire le stesse cose più buttate, più tranquille, più, certo, senza metterci, sì, l'intensità, sì, prova un attimo, questo è fuori provino, ma tanto per provare un attimo, ma poi come dice Franco Fussi, che avremo anche oggi pillole di salute vocale, non fate questo perché è una botta forte alle corde vocali che fa male, mentre invece respirate, sbadigliate, mandate giù la saliva, fate dei suoni con l'aria, ma non sfingerlo. Va bene, riprovo. Leggero, leggero, non preoccuparti della bella voce, pensa okay. soltanto a raccontare alla gente due righe soltanto, okay. e vedi anche con la musica. Semplice. So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. Avverto la vostra presenza, normale. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Ok, ok. Era già più rilassato. Sì, era un po' anche l'emozione, no, forse. No, va bene, non ti preoccupare. Non Laura. Va bene. Sì, sì, sì. Non si aprirà una botola qua sotto adesso. No, non c'è il molto gioco bene. Del bravo no, Jerry. No, no, no, no, no, no, no. Anzi, grazie va davvero. Bene. Ce l'hai, era comunque buono. Grazie. Allora, il nostro amico che l'ho già visto, soprannominato quando t'ho visto. Un hobbit di 42 anni. Un hobbit di 42, non è carino. Fratello Moro de Legolas, vabbè. Io comunque vi ringrazio, ti ringrazio Pino, Laura e la redazione per essere qui nuovamente. A 3-4 mesi di distanza ce ne sono di disgrazie e mi dispiace che vi sia capitata nuovamente. No, c'è di peggio, credimi che c'è di peggio. Da dove vieni tu? Io sono di Roma, vengo dalla provincia, mi sono trasferito. Dove? Dillo il nome. Abito a Rignano Flaminio, in provincia di Roma. Conosciamo perfettamente Rignano. Io ho vissuto a Castelnuovo per molto vicino, sì. Fuori porta tutte e due sì, siete. Esatto. Per cui si può fare pure nella provincia, sì. Se uno via da Fiano, insomma, può vabbè, fare. Io vengo da Cassino. Ma tu sei cassinese? Cassinate. Vabbè, lasciamo stare. Va bene, cosa hai portato? Io ho portato, avevo portato diversi monologhi, ma me li hanno proibiti, quindi ne farò uno erano solo. Porno? Che cos'è? No, non erano porno, ma erano, avevo riproposto il monologo della volta scorsa, però ne ho portato un altro, è il monologo finale tratto da Io, Annie di Woody Allen. Sì, conosciamo. Ah, quello finale della donna che, sì, della che non puoi farne a meno, è bellissimo. Esatto, allora devi esatto. farlo come Oreste Lionello. No. L'ho fatto, cioè, ho cercato fatto di farlo mio comunque. Sì. Oreste era Woody, Non si può imitare. Quando non si può imitare è preferibile allora fallo tuo. Essere se stessi. Vai bello mio, nome e cognome. E mi chiamo Daniele De Nora e vado. Dopodiché si fece molto tardi. Dovevamo scappare tutte e due. Ma era stato grandioso rivedere Annie. No? Mi resi conto che donna fantastica era e di quanto fosse divertente solo conoscerla. E io pensai a quella vecchia barzelletta, sapete, quella dove uno va da uno psichiatra e dice: dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina. E il dottore gli dice: perché non lo interna? E quello gli risponde: e poi a me le uova chi me le fa? Beh, credo che corrisponda molto a quello che penso, a quello che penso io dei rapporti uomo-donna. E cioè che sono assolutamente irrazionali e pazzi, assurdi e... Ma credo che continuino, perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova. Ok, ok. Ti sei avventurato... No, va bene, l'hai fatto brillante... Sì, e poi appunto non è imitato. Il cipiglio era quello, cioè quella voce un po' di testa, sì. un po' insicura, ma inimitabile. Insomma. Inimitabile. Di Allen come Oreste Lionello sono inarrivabili da quel punto di vista, però è giusto che sia così. Facciamone entrare un altro e poi ne abbiamo, sì perché siete sette oggi, altri due e poi vediamo gli altri tre nell'altro blocco. Vai, veloci! Grazie ragazzi, scusate la rapidità. La cosa brutta è quando fai un provino in voce che ti dicono lasci una foto. Vuol dire che non è andato, no. Benissimo. Come dicono nel cinema. Ci vediamo qua fuori tanto durante la pubblicità. Amico mio, tu assomigli molto al nostro collega che è Davide Perino. Sei roscio come lui, speriamo che sei bravo come lui. Dai, da dove vieni? Allora, io mi chiamo Claudio Crisafulli. Innanzitutto ciao a tutti. Ciao e, vengo dalla Sicilia. Dove? A Milazzo, provincia Milazzo. Di Messina. Sì, non conosciamo perfettamente, dai. Ma sto qui a Roma da qualche anno, ho studiato un po' di teatro, mi sono diplomato in un'accademia, vorrei molto fare doppiaggio e lavoro un po' quando mi fanno lavorare. Vabbè, è giusto, è così, guarda, noi abbiamo ancora le nocche, proprio delle ancora bussiamo la porta pure noi. Allora, cosa hai portato? Allora, io ho portato un pezzo di Heath Ledger tratto da Batman, il Cavaliere Oscuro, che sarebbe il Joker. Il Joker, va bene, allora presenti il nome e cognome, il titolo e vai. Ok. Claudio Crisafulli, da Batman e il Cavaliere Oscuro, Heath Ledger. Oh, ma buonasera, bellissima. Tu devi essere la pollastra di Harvey, hm? E lo sei, bellissima. Oh, mi sembri un po' tesa. È per le cicatrici? Vuoi sapere la loro storia? Hm? Vieni qui, guardami. Avevo una moglie. Era bellissima, come te. Lei mi diceva sempre che mi preoccupavo troppo. Mi diceva che dovevo sorridere di più. Che giocava d'azzardo e si metteva in un mare di guai con gli strozzini. Un giorno le sfregiano il viso. Ma non abbiamo i soldi per la plastica. Lei non lo sopporta. Ma io voglio vederla tornare a sorridere. Voglio che lei sappia che non me ne importa delle cicatrici. E allora mi ficco il rasoio in bocca e mi riduco così, da solo. E sai che succede? Non ce la fa neanche a guardarmi. E mi ha lasciato. Ma ora ne vedo il lato buffo. Ora sorrido sempre. Sei un tipetto combattivo, eh? Mi piace lottare. Ok, stavo per chiamare 118 per un attimo. Sì, va bene, non era facile anche questa bellissima interpretazione. No, poi comunque dopo... loro fanno tutte queste cose senza avere uno schermo davanti, esatto. Senza avere un attore, quindi in realtà interpretano così. È facile. Così. No, è più difficile, perché chiaramente dovendo, cioè tu hai una faccia davanti, hai l'attore che devi... Che ti dà quei suoni, che ti aiuta. Devi doppiare, e quindi è più difficile farlo come lo stai facendo tu in questo momento, senza avere un video davanti e senza avere un attore. Certo, il problema però è che comunque dovresti stare, devi stare molto sì, attento poi, al sync, quello è un secondo momento, intanto già di base uno deve essere un attore, lo diciamo sempre. Sì. Bene, siamo arrivati però alla fine di questo blocco, vediamo gli altri tre nell'altro blocco prima di ascoltarci Franco Fussi e poi chiudere noi. A tra poco, come ti chiami? Jacopo Carta. Sei giovane, quanti anni hai? Sì, già ho 21 anni. Ah, beh, c'hai 2 anni più di me. Va bene, a tra poco, Voice Anatomy e questi amici. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Sanatomi. Eccoci subito di ritorno, 15:17, abbiamo sentito i primi tre ragazzi che si sono attenuati a questi microfoni. Laura, oh, bravi insomma, dai, sì, comunque bravi. C'è una base buona. È la prima volta che fanno, che fanno si qualcosa, esibiscono in qualche appunto, modo, poi senza schermo e senza, sì, quella è una tecnica difficile. Però insomma c'è l'agitazione, la preoccupazione, poi sono tutti pezzi piuttosto corposi. Caro Pino, Vittorio Di Prima, il mito, lo saluto anch'io il Vittorio, ovunque lui sia, mi hai ricordato per timbro e recitazione in Sottassedio, dice Mario. Magari, Vittorio, un grande amico. Daniele, che bravo, che simpatico, che gioiosa interpretazione, viva le uova. Un altro Marco, recitazione un po' troppo studiata, poco tranquilla. Un altro bravo. Fino a quando il Gran Premio del doppiaggio ci sarà all'Auditorium Renzo Piano il 23 novembre, dovrebbe essere, poi vi dirò le cifre, la data esatta. Anche perché ci sarà quest'anno grande novità fra Red Carpet, una grande orchestra, i colleghi che si alterneranno, e daremo la possibilità anche a qualcuno di voi di essere presente al Gran Premio come auditori, perché no, magari in futuro sarei su quel palco e sarei contento di premiarvi. Allora, stavamo parlando con te, sì, giovine. Eccomi. Vergogna, ancora 21 anni ci hanno, Laura, st'età. Mamma mia, ma sono scordata. Lascia sta. Come ti chiami? Allora, mi chiamo Jacopo Carta, ho 21 anni, sono vieni? Nato a Roma. Ok. E ho studiato recitazione a Teatro Azione e mi sono diplomato quest'anno. E ho sempre amato il doppiaggio, la recitazione in generale. Perché sì. Il doppiaggio è soltanto una delle direzioni, una declinazione. Sì. Della recitazione, sì. Che può dare tanta soddisfazione. Bellissimo. Insomma, bel potrei essere, dirla a me, insomma, posso essere il corpo di qualcun altro che non avrò mai, per cui, sì, ringraziando Dio. Ma perché ti butti giù così? Ma è così, Laura, è meglio. Ma perché? Perché poi c'è gente che ti dice: ma guarda che non sei male. Ma te, in fondo non sei male. No, è vero, no. Poi detto, però perché hai riso dopo? Hai detto una cosa bella, con l'intenzione bella, e dopo ci ridi. Bello Francesco invece. Bello Francesco. Ma che bello, vuoi che ti ha dato tre figli? No, vabbè, vabbè, bello Francesco, poi ne parliamo di questa storia. Amico mio, allora, cosa hai portato? Ho portato un monologo di Jon Snow del Trono di Spade. Eila. Sì, perché mi sono innamorato del personaggio proprio. Ti piace? Volevo farlo. Beh, oh, diciamo a Daniele Giuliani ti sentisse male. Però Jon Snow c'ha una bella voce buona, sì, sì, anche se Daniele è più leggero, lo fa molto bene, ma non è molto adatto alla mia voce, però mi piaceva così tanto che ci metti il carattere, metti il carattere tu, esatto. Grande inverno, vai. Vado. C'hai musica? Eccola. Jacopo, no, scusa, ricominciamo. No, è colpa mia. Nome, cognome, quello che porti e poi partiamo. Okay. Allora, Jacopo Carta, Trono di Spade e Jon Snow. Jon Snow, vai. Questo messaggio è stato mandato da Samuel Tarly. Era un mio confratello dei Guardiani della Notte. È la persona di cui mi fido di più di ogni altra a questo mondo. E lui ha scoperto che sotto Roccia del Drago c'è una montagna di vetro di drago. Abbiamo bisogno del vetro di drago, miei lord. Sappiamo che il vetro di drago può distruggere sia gli estranei che il loro esercito. Dobbiamo estrarlo e trasformarlo in armi. Mi avete incoronato come vostro re. Non l'ho mai voluto. Non ho mai chiesto di esserlo. Ma ho accettato, perché il nord è la mia casa. È parte di me e combatterò sempre per difenderlo, senza pensare mai ai rischi. Ma ora non possiamo farcela. Nessuno di voi ha visto l'armata dei non morti, nessuno. Non potremmo mai sperare di sconfiggerli da soli. Ci servono alleati, dei potenti alleati. Figlio mio. Bene, no, grazie, grazie mille. Dai, sei giovane, è vero. Ti manca ancora un po' quel corpo da primo attore. Di forza, però c'è la voglia, c'è il cipiglio. Mi piace un sacco. Ma sì, guarda, quella è la cosa più importante. Veramente certe tanto. Volte si prendono delle persone, non Laura, per la voglia che hanno, sì. Per la gioia che mettono in quello che fanno. Sì, mi sono fomentato. Quello deve essere, sì, quello sì, ti sì. Porterà avanti, amico mio. È così, te lo dico, veramente come un padre. È vero, si sentono ancora un po' le preoccupazioni, sì, per certo. Le cose, l'agitazione, sì. Ancora un po' la lettura. E sento quindi... l'età, senti l'età, insomma, no, l'esperienza. Esperienza che non hai di aver governato un esercito a 21 anni vivendo, certo. A Roma, questo viveva a grande inverno nel nord, sì. Col freddo, il gelo, i morti, i non morti, la madre sgozzata. Vedi come cambi, vedi come cambi voce quando è così. Non fai venite qui signori, vai, venite qui signori. Va bene, va benissimo. Grazie mille. Abbiamo una fanciulla. Salve a tutti, grazie mille per avermi dato questa opportunità. Grazie a te. Come ti chiami? Allora, io sono Serena Ronica, sono un po' meno giovane degli altri, ho già 38 anni. Già 38 anni, pensa, è finita. Guardate, sì, assolutamente. Alessia Navarro che insieme a Meconi che ti stanno mandando a quel paese. Perché hanno 38 anni uno e 35 l'altro, so se ti hanno mandato non ti scelgono questi. Hai capito? Purtroppo iniziano a pesare, dai, è la verità, è la verità. Cominciano gli acciacchi, le la prostata. Quella no, quella me la evito, insomma. Da dove vieni? Sud? Allora, io vengo da Manziana. Da Manziana, a Roma sì, Sud. Però sì, ho origini romane e anche siciliane, per cui un sì, bel mix. C'è la Sicilia, sì. Il cognome un po' mi sembra siciliano. Sì, siciliano, sì. Io sono totalmente profana, io scrivo horror, per cui proprio non ci azzecco nulla. Però se sei stata scelta, lì che hai dato qualcosa di te che ti ha sì, interessato. Sì, ho provato a portare un pezzo da Misery non deve morire, certo. Mettandomi con Katie Bates, che insomma è un monumento ambulante. Bene, ma tu scrivi horror, qual è l'ultimo che hai scritto? Come si intitola? È un racconto più che altro. Ma si chiama lei, editi? Sì. Dillo, fa, puoi fare La moglie dice. Perfetta e parla di un marito che decide di ammazzare la moglie. Strano, perché... una cosa che non succede sì. Quasi mai ultimamente. Ecco, però utilizzando poi le tecniche del voodoo la riporta in vita e quindi diventa una mogliettina perfetta. Con i suoi ironica, poi, bella sì. Sta cosa. Molto pezzemetari. Sì, molto. Però questo ci ha risvolto magari ironico perché il fatto che la riporta in vita sì. Fa diventare la moglie perfetta. Preferisco così. Il grottesco, sì, non è sono grottesco. Un amante dell'horror splatter. Mi piace un Edgar Allan Poe, sì. Anche se era un grottesco drammatico, sì. Qui sì, è ironico. Come finisce questa storia? Che... Finisce, diciamo, un po' in sospeso, nel senso che a desiderare qualche cosa troppo ardentemente poi non sai mai che risvolto può avere, quindi avere una moglie zombie dentro casa può essere sempre... Beh, se si comporta bene e tranquilla rispetto a prima che lo gonfiava, magari non è, che non so, va bene, mi piace questo. Sai, sono mordaci i zombie, per cui bisogna sempre starci attenti. L'hanno declinato in tutti i modi. In tutte le salse proprio. Dillo al nostro amico doppiatore di Walking Dead, Ian Sante, che vorrebbe morto davvero. Immagino. Vorrebbe morto. Ma dicono poi tra così, cane, non voglio più fare. Vabbè. Allora, cosa hai portato? Allora, ripeti, nome e cognome è quello che allora, hai portato. Io sono Serena Ronica e ho portato un pezzo tratto da Le streghe di Eastwich, e okay. Il pezzo in cui Cher, diciamo, viene sedotta da Daryl, che è interpretato da Nicholson. Vai. Beh, sai, lo devo ammettere, io apprezzo la tua sincerità, Daryl, e cercherò, mi sforzerò di essere diretta e altrettanto sincera come te, per quanto mi è possibile. Io credo, no, io sono più che convinta che tu sei il più disgustoso uomo che abbia incontrato da quando sono nata. Nel breve tempo che siamo stati insieme, tu hai messo in luce tutte le ignobili caratteristiche della personalità maschile, anche scoprendone alcune davvero nuove. Tu sei fisicamente ripugnante, intellettualmente ritardato, moralmente riprovevole, volgare, insensibile, egoista, stupido. Sei privo di gusto, hai uno sceno senso umoristico e per di più puzzi. Non sei neanche abbastanza interessante da farmi vomitare. Si è sbrigata. No, infatti non vedevi l'ora di finirla sta cosa. Perché era carina se ci mettevi quel cipiglio che c'era dentro, quella brillantezza. Lo so, perdonatemi all'emozione. No, ma va bene, quindi... va bene, ci sta, tranquilla. Si valuta anche la voce, la simpatia, la disponibilità, l'intensità di quello che si sta facendo. Va bene, grazie mille. No, grazie a te. Scrivi, fammi sapere quando scrivi qualcosa. Va benissimo, sempre di tema orrorifico. Mandacelo anche tramite Facebook al nostro sito, magari d'accordo. Se racconto è mandabile, mandacelo magari. Va benissimo, ma te lo leggiamo noi. Perfetto. Tu te sbrighi, sono due secondi e l'hai finito. Sì, troppo veloce. Grazie mille, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a te, ciao tesoro. E allora, mentre tu ti accompagni verso l'uscita, ci ha raggiunto. Quanti ne mancano? Quanti ne abbiamo? È l'ultimo, scusami Mauro. L'ultimo. Ah, sei l'ultimo. Sì. Quando finisce il blocco, scusate, lo dico tutto in diretta, è 30, no, perché non l'avevi scritto, Rachele, vedi? Mi dice 30, come se l'avesse scritto, perché c'è un vetro, dove dall'altra parte Rachele, l'unica cosa che dovrebbe fare bene è scrivermi due numeri, ma non lo fa, va bene. Sarà per te Radio 24, Rachele, ma finisce qui. Ma la stai qui. Schiavizzando? No, no, finisce qui. La stai schiavizzando, le stai facendo fare qualunque cosa. No, mi ha portato nell'acqua, nel caffè, che ho schiavizzato. Ma Laura. Cosa? Ma di tutto ha fatto, da quando sono arrivata non si è fermata un secondo. Perché lei si è agitata sola, perché non fa niente. Ma però, sei tu che le metti agitazione, guarda la poverina, è distrutta, disperata. Perché lì, guarda Laura Romano, c'era un sacco di gente dove ne è ancora, tutte le De Bortoli, tutta questa gente, va bene, le hanno a casa a fare un altro figlio. Amico mio, deve sentire Francesco prima. Quanti anni hai? Io sono un'infinità di anni, 58. Infinità, cioè abbiamo la stessa, sei del 59? 59. Che mese? Gennaio, sei più grande di me. 15 gennaio. Io 30 agosto, sono un bambino. Vabbè, infatti chiamami zio. Di dove, come ti chiami? Scusami. Allora, io sono Antonio Miranda. Antonio, vieni da? Vengo da Angheri, in provincia di Salerno. Salerno, come no? Vicino Pompei, praticamente. Ma tu fai l'attore? Ho fatto tanto tempo l'attore. Ho cominciato qui a Roma col Teatro dell'Opera, a parte le comparsate un po' in televisione, le cose. E poi all'Opera, per un progetto con Silvano Bussotti, abbiamo fatto la spalla un po' dei cantanti veri. Non che io sono. Ma tu canti? Diciamo, no, canto, però non sono un cantante lirico, assolutamente no. Ti sei messo all'Opera? No, però eravamo 15 attori, era un progetto 15 attori che facevamo da spalla. Insomma, ti piace questo mestiere? Fatto... Lo ami, sì, profondamente. Poi ho lavorato un po' con Armando Pugliese, ho fatto La Pelle, insomma. Siamo stati un po' in giro. Hai navigato, dai, 58 anni. Che hai portato? Io ho portato il finale dell'Ultimo Samurai. Niente di... Va bene. Proprio il finale. Mi piace, lui no, non il giapponese è lui, Tom Cruise. È il narratore, un po' il narratore. Che racconta. Che fine fa un po' questo? Me lo fai in Salernitano o me lo fai? No, me lo fai in italiano? Lo proviamo in italiano. Poi nel caso dopo, altrimenti lo fai come vuoi. Altrimenti lo possiamo provare. Sei padrone. E i pugliesi anche possiamo provare. Che è il finale quello. Allora. E andiamo. Allora, un attimo, nome e cognome e il titolo. Ok, io sono Antonio Miranda e la scena finale dell'Ultimo Samurai. E così il tempo dei samurai è raggiunto alla fine. Le nazioni, come gli uomini, si dice talvolta, hanno un loro destino. Quanto al capitano americano non se ne ebbe più notizia. Per alcuni è morto per le ferite. Per altri invece è tornato nel suo paese. Ma a me piace pensare che abbia trovato finalmente quel poco di pace che tutti cerchiamo e che solo alcuni raggiungono. Guarda, ci sei sembrato Gianni Musi, con tutto il rispetto per il grande Gianni, però questa voce un po' ingolata, grattata, sì, sì. E quest'aria, questo modo di parlare con la bocca un po' stretta così, ricordato. Ma andava bene? Sì. Caspita. Sì, sì. Hai fatto, è bello, per noi ci ha dato questa suggestione che già è bello assomigliare a qualcuno, che poi non c'è più, insomma, tutto bene. Il rispetto per il grande Gianni, certo. Insomma. È già una soddisfazione. Intanto, sì. Io già sono molto contento, sì, di essere qui oggi, quindi per me ho già vinto qualche cosa. No, va bene. Quindi va. Tutto quello. Bravo, che Miranda. No, era bella, che sono voci, è una voce nuova, insomma. Poi va mi direte un po' a fare delle altre voci, insomma, però. No, questa ci piaceva. Questa qui. È molto doppiaggio, molto cinema, molto suggestiva. Perfetto. Va sono bene, contento. Allora io. Grazie, puoi rimanere, grazie, perché stiamo salutando. Fra poco andrà in onda il tutorial con Franco Fussi, queste pillole di salute vocale molto importanti, e poi chiuderemo insieme a Alessia Navarro e Mauro Meconi presentando questa nuova web series che tanto successo sta avendo da ieri, dalla prima puntata che è andata in onda, Mamma Nero, e sta già quasi a 50.000 visualizzazioni neanche un giorno, ma è molto divertente. Sarà che la regia di Mauro Meconi non recita, per questo molto probabilmente. Laura Romano, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Con tutto il cuore, della tua bravura, della tua simpatia, della tua grande ironia, e quello che ci ha raccontato anche di grazie. Te, che è stato molto importante per qualcuno che magari lo sta grazie vivendo. Grazie a voi, mi sono molto divertita. Benissimo, mi hai trattato malissimo. Viva Francesco, vabbè. Te lo meriti. Saluto tutti e tre i tuoi figli. Quello allettato fa finta un'altra settimana che sta male, salvati dalla scuola. Te lo dice zio Pino. Ciao a te. E noi ci sentiamo fra pochissimo con Franco Fussi. Ciao. 4 ottobre 2017. Radio 24 compie 18 anni. A 18 anni volevo, sicuramente l'indipendenza economica. Ci ho messo un po', ma poi alla fine ho finito anche con l'occuparmi di economia. A 18 anni credevo di dover scegliere essere o avere, poi ho scoperto che bastava metterci una E. A 18 anni non pensavo avrei viaggiato per l'Europa e per il mondo, poi l'ho fatto. Radio 24, da 18 anni, racchiude tutto questo. Una generazione di stimoli per la mente. Grazie a voi che ci avete sostenuto, amato, odiato e soprattutto ascoltato. Raccontateci perché vi piace Radio 24. Scrivetelo a buoncompleanno@radio24.it e 18 di voi potranno assistere dal vivo alle dirette della radio. Radio 24, il sole 24 ore. Nata con carattere. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, eccoci qua, come promesso, il nostro appuntamento settimanale con il dottor Franco Fussi. Con lui ci occuperemo di pillole di salute vocale, non solo, queste pillole di salute vocale, caro Franco, come diciamo sempre, non sono soltanto per gli attori, i cantanti o chi fa della voce il proprio uso professionale, ma chi fa della propria voce un uso quotidiano, anche un professore, voce, un maestro, certo. Un avvocato, un professionista vocale, ma anche una persona, naturalmente, un venditore, insomma, certo. La voce serve a tutti. L'altra volta abbiamo iniziato dando una pillola, ma molto rapida e veloce, perché arrivano tanti messaggi: mio figlio ha questo, io parlo così, io mi fa male quest'altro. Noi cercheremo di affrontare tutto questo percorso. Abbiamo cominciato, però l'abbiamo consumato in un paio di minuti, il fatto dell'aerosol, dei suffimigi, eccetera, quando è meglio idratare la corda vocale, eccetera, eccetera, eccetera. E cominciamo proprio da quello, la differenza fra l'aerosol o suffimigi. Sì, lo ricordiamo ancora, quindi sì. Riguardo agli aerosol, quando fare l'aerosol e quando invece fare il fomento, cioè il classico suffumigio. Se sono disidratato, quindi se la mucosa è infiammata, meglio il fomento, perché va a idratarmi, e quindi sì. Un buon funzionamento della corda vocale è proprio la massima libertà di scivolamento, di ondulazione dell'onda mucosa, quindi mi stanco meno se sono ben idratato. Se invece ho un edema è meglio il cortisonico, perché mi va a decongestionare la mucosa e quindi a togliere l'edema. Come facciamo ad accorgerci della differenza fra una cosa e l'altra? Cioè uno si dice: ho mal di gola, voce, c'è leva l'attore, stato... ma una persona normale dice: io sto così. No, se c'è uno stato infiammatorio, se sento bruciare la gola, vuol dire che sono comunque infiammato e quindi disidratato, allora in quel caso il fomento. Se invece mi rendo conto che l'abbassamento di voce è legato a uno sforzo vocale che ho fatto perché ho urlato, allora in quel caso ho sicuramente una congestione della mucosa, un edema, e allora in quel caso è meglio fare l'aerosol. Che cos'è l'aerosol? Poi è un compressore che prende la molecola farmacologica, la rompe e la spara nel cavo orofaringeo. E quindi abbiamo anche, tra l'altro, subito un effetto collaterale dell'aerosol, che è l'essiccamento appunto della mucosa che viene colpita dalla polvere, dalla molecola. Certo. D'altra parte, hai mai fatto le pulizie di Pasqua? Io no, però ho guardato mia madre farle. Quando anche metti mia a posto i libri, metti a posto tutti i libri, poi alla fine ti accorgi che hai le mani secchissime perché la polvere si è depositata sulla cute, perché la polvere è idrofila, cioè assorbe il quantitativo di liquidi che è presente sulla cute e quindi ci essicca profondamente. Per cui l'effetto collaterale inevitabile per la somministrazione in aerosol è proprio l'essiccamento loco-regionale. Questo essiccamento ha sfiamma. No, va a creare un abbassamento dei recettori della tosse, che hanno una soglia molto alta quando c'è idratazione, mentre invece quando sei secco, quando la mucosa è secca, diventa un problema grosso, perché è un problema coniugare un soggetto che ha la tosse con una somministrazione in aerosol, perché l'aerosol mi aumenta la suscettibilità, certo, allo stimolo della tosse, perché mi riduce la soglia del recettore. Per cui bisogna lubrificare in quel e quindi caso, bisogna, no? Se faccio l'aerosol col cortisone, che devo comunque stare attento a ottimizzare al massimo tutte quelle che sono le procedure di idratazione, soluzione fisiologica, ialuronico, soluzione fisiologica, la fazzoletto bagnato sotto al naso per respirare acqua. Questa sembra una cosa antica di nonna, metti un fazzoletto bagnato con l'acqua. Viene usato tantissimo anche dai cantanti in camerino prima degli spettacoli, cioè tu imbevi un fazzoletto di acqua. Ti ascolto con grande bella perché faccio... Lo tieni sotto le narici, respiri da lì per un quarto d'ora ed è il fazzoletto massimo... di gara con fazzoletto di stoffa antico? Stoffa l'antico, quello vero. Sì, stoffa o garza, in maniera tale che le goccioline, le microgoccioline vanno a depositarsi sulle corde vocali, ed è stato fatto un esperimento in Spagna su 100 cantanti, a 30 hanno fatto iniezioni di mannitolo, di sostanze idratanti varie, a 30 hanno fatto spray nasali con le soluzioni saline termali, a 30 hanno fatto questo giochetto di mettere il fazzoletto, poi hanno prelevato un po' di muco dalle superfici delle corde vocali per vedere chi era stato più idratato dei tre gruppi, ed è risultato più idratato quello del fazzoletto, quindi la cosa più semplice ed economica. Non ha sempre ragione. E quanto bisogna farlo questo? Questo chiedo egoisticamente, perché prima 10 minuti, 5 minuti prima l'aerosol, di andare fazzoletto. Il fazzoletto è un quarto d'ora è più che sufficiente, 10-15 minuti insomma. Bagnato. Anche durante bagnato, tenuto sotto al naso. E anche quando fai un viaggio aereo, per esempio, dove c'è poca umidità relativa nell'aria dell'aereo, quindi c'è un 5-10% in tutto, quindi ti si secca più facilmente le mucose. In quel caso ogni tre quarti d'ora fare un quarto d'ora di respirazione attraverso il fazzoletto, in maniera tale da idratarti. Esiste anche uno dei prodotti, delle mascherine con delle boccette d'acqua, che l'hanno inventato i giapponesi, cambiare. Chiamano umidifier, una roba del genere, che le indossi e praticamente ti respiri ecco perché vedo tutti questi giapponesi in giro con queste mascherine, sono quelle oppure perché hanno paura di respirare l'aria? In giro quelle è soltanto per proteggersi dalle polveri sottili. Esatto, hanno paura di quello. Ma pensa quante cose, veramente è una cosa di facile consumo, soprattutto per un professionista. Sì. Ritornando agli aerosol, ci sono alcuni che usano l'apparecchio a compressore classico tradizionale, altri quello che dura di più, volevo chiederti proprio questo, sono quelli che durano poco, sono consigliati per un certo tipologia, quelli cosiddetti a ultrasuoni. Siccome gli ultrasuoni non riescono a rompere le molecole grandi, allora devo sapere che se la molecola che devo inalare è una molecola grande, cioè se è abbastanza contenuta, cioè piccola da poter essere rotta anche dall'ultrasuono, allora arriva, ma se è una molecola molto pesante, che cosa succede? Che si deposita, quindi la parte acquosa viene sparata, mentre la parte farmacologica ti rimane sul fondo dell'ampolla dell'aerosol. E come facciamo? Chi ce lo dice quale, se è pesante o leggero? Non possiamo fare nomi di farmaci, ma non sapendolo scegliamo preferibilmente quell'antico, quello che ci mette un quarto d'ora col compressore, esatto, giusto, sta 20 minuti proprio così. Quello. Però che sia cortisone, che sia soltanto una cosa che lubrifica eccetera, o che smuove, cioè è meglio il compressore quello che ci mette di più, insomma. È vero che ci mette poco, ma rischiamo di non avere l'effetto l'effetto farmacologico, perché mi rimane nell'ampolla. Cercate mai fretta nelle cose, soprattutto come vedi, certe volte le cose analogiche sono quelle che poi funzionano di più. Cioè questa storia del fazzoletto la riprendo, perché dice facciamo questo, facciamo quest'altro, facciamo la puntura, prendiamo questo cortisonico prima di andare in scena eccetera, a volte basta quando magari, ma soprattutto si devono fare quando si sta già bene certe cose, no? È meglio prevenire no? Meglio che curare. Per cui curare, io mi ricordo che all'inizio ci consigliano sempre di fare questi sciacqui con l'erisimo e la malva. Sì, ne parliamo dell'erisimo poi. Poi ne parleremo. Può far bene, poi. Ma può far male. Lo chiamate la voce, l'erba dei cantanti, ma la chiamano l'erba, ma... io mi sono convinto perché la chiamano gli altri, la chiamano l'erba dei cantanti, e io mi sono affidato. Poi mi spiegherai quando toccherà questo tipo di tutorial, quando parleremo di fitoterapia, esatto, di questa cosa qui. Però già, ecco, questa cosa è molto interessante, perché è facile somministrare, insomma, un aerosol, è facile dire farlo con la macchina ultrasuoni. Non vogliamo demonizzare la macchina ultrasuoni, per, no, carità, no, per carità, è utile, certo. Però chiediamo prima, come adesso ha detto, che cosa è preferibile, che cosa è preferibile utilizzare. Quello che ci stiamo facendo, se è grande molecola o piccola molecola. Esatto. Se è una molecola grande, conviene farla con il vecchio compresso, vecchio fra virgolette compresso, quello che ci mette di più, quello che fa più rumore, mentre le nuove macchine ultrasuoni, è vero che sono rapide, ma possono essere giustificate dal fatto che siano molecole piccole quelle che dobbiamo inalare. Poi, esatto, insomma, fatevi consigliare da non da un amico. Questa trasmissione non vuole dettare legge da questo punto di vista, no, ma certo, vuole soltanto aiutarvi a declinare bene da dove comincia la nostra salute vocale, perché tante volte anche ignorantemente, mi è compreso, uno dice c'ho la laringite, c'ho la faringite, ma dove sta la laringe, dove sta la faringe? E dove sta il diaframma? E dove sta il diaframma? Il diaframma non ne parliamo. Ogni tanto bisogna dire che non è soltanto un anticoncezionale, ma è, okay, proprio la base che sostiene le viscere, eccetera, eccetera. Per cui non è soltanto quello, ma è bene che uno si fa una passeggiata all'interno del proprio corpo umano. Lo sentimo qualche settimana fa con Karima, avere una coscienza, una conoscenza, una coscienza del sé interno, non soltanto lo stomaco, l'intestino che ci regola gli umori della giornata, ma l'apparato respiratorio è fondamentale come salvaguardarlo, perché insomma noi respiriamo per, okay, vivere, non solo mangiamo ma respiriamo, e allora sapere come bisogna respirare, e lo faremo anche lì un tutorial con una maestra di canto molto brava, anche lì cominceremo a fare degli esercizi radiofonici della, per la respirazione, e quant'altro, e, insomma, cercheremo non di fare facile. Una radio, no, non facile, facile, come fare una lezione di mimo per radio, no, insomma è è un po' complicato, però la tenteremo, tentiamo questa, okay, questa avventura con Donatella Pandimiglio, per cui mi, benissimo, sembra giusto regalare anche questo, deve essere una radio di servizio. Allora, caro Franco, anche questa giornata di la pillola di salute vocale termina qui, ma tu ogni settimana, per abbastanza settimana, credo una decina di settimane, vedremo quanto ci darai di disponibilità, che già è tantissima, ti avremo qui attraverso questi microfoni. La prossima settimana di che vogliamo parlare? Di che vorrai parlare? Possiamo parlare sempre di idratazione, oppure di riscaldamento vocale, oppure delle tecniche per ridurre la fuga d'aria nella voce, cioè la mancanza di adduzione completa delle corde vocali, i cosiddetti deficit adduttori delle corde vocali. I famosi deficit adduttori delle corde vocali. No, ma è bello, è bellissimo, insomma. Ma impariamo qualcosa di più, me compreso, signori, io sono come voi, come se stessi dall'altra parte di questo microfono. Grazie Franco. Grazie Fussi, e ci sentiamo con te la prossima settimana. Noi andiamo avanti con la nostra Voice Anatomy, a tra poco. Voice Anatomy. Eccoci qua dopo una bellissima nuova pillola di salute vocale con il bravissimo Franco Fussi. Devo dire che siamo accompagnati sempre bene attraverso questa radio, sia Franco Fussi che l'altro amico di questa radio, l'altro grande otorinolaringoia, Diego Cossu, insomma. Fra poco cominceremo anche i tutorial di canto con Donatella Pandimiglio, insomma, con i miei autori che sono qui al mio fianco in questo momento abbiamo parecchie cose al fuoco. Siete contenti? Buonasera a tutti. Ciao. Alessia Navarro alla mia sinistra, Mauro Meconi alla mia destra, insomma. Buonasera. Ecco, lì ho impostato la voce, vedi, sta per radio. Si è dimenticato Romanzo Criminale, ha dimenticato già tutto, Mauro. Mettiti di giocare con... Ah, vediamo... No, no, stavo preparando. Esatto. Noi siamo qui per chiudere questi ultimi pochi minuti insieme, perché abbiamo fatto una bellissima cosa. Devo dire che Mauro, con Daniele Prato come autore, Mauro Meconi come regia, e il sottoscritto Alessia Navarro ed altri... Parrello, altri attori molto molto bravi che si sono alternati in queste 10 puntate, 12 puntate di questa serie. Siccome web, non ha fatte 10, dice che sono 10. Ah, perché due non ci sono, e non vi consiglio di non vederle quelle due, non so quando andranno in onda. Però la cosa bella per cui ne stiamo parlando è che adesso la comunicazione è più verticale, non più orizzontale come una volta, nel senso si mira con un prodotto, con un progetto, e soprattutto è molto più efficace il web ormai che la televisione, e molte più visualizzazioni e persone che ti seguono, a meno che normalmente non vedono mai niente della televisione, riescono a seguirti attraverso il web. E questa avventura di Mamma Nero sta dando i suoi risultati. Ieri è andata in onda la prima puntata, siamo a un giorno di programmazione, già insomma siamo oltre arrivati... 26.000 visualizzazioni. Vabbè, non parlate a me di visualizzazioni, di like, perché io veramente non faccio testo, non lo capisco, non so qual è il range. Bene, per io dire sono che parecchio abbiamo fatto social, dei grandi però numeri, possiamo dire che sono numeri, 25.000, 26.000 spettatori in 24 che ore. In un giorno hanno visto i 5 minuti della prima puntata, è ancora a vita, nel senso, e chi l'ha visto ha notato insomma un talento speciale in Pino, sì, nella danza. Nella danza, Pino, sì, chi l'avrebbe mai detto? Ho solo ballato mentre la Navarro ha recitato e tu mi hai fatto ballare. Però è stato quello che ha convinto i 27.000 persone a seguire Alessia Navarro a recitare, ovviamente. Anzi, c'è da invitare qui tutti il pubblico di Voice Anatomy, certo, ad andare sulla pagina Facebook o di Mamma Nero o su quella personale di Pino o sulla mia o su quella di Voice Anatomy o su quella di Alessia, e visualizzare la puntata e sì, magari se piace minuti. Condividerla. Sì, sì, è quello che vi si chiede, perché ecco, si fanno queste avventure anche per avere la possibilità di continuare a fare questo mestiere, insomma. Adesso anche i cantanti dicono: ho fatto un disco, ho avuto 1.000.000 di visualizzazioni, no? Ti dicevi: ho venduto 100.000 copie, ho venduto, ma ormai quello si fa sempre meno. Ormai il CD o il vinile, che è tornato prepotentemente di moda, straordinario, perché l'oggetto vero è il vinile. Anch'io sono per toccare le cose, sono poco social perché le cose social non si toccano, cioè io voglio il DVD, no? O il DVD, sì, come si diceva, lo facciamo il DVD, tutte e 12 le puntate, dai. Il DVD? Dai, va bene, dai, facciamo una chiavetta USB. No, una chiavetta USB, no. Allora, fino adesso faccio il regista. Parlami un po' di questo personaggio. No, ecco, lui mi odia per un motivo, perché io non imparavo a memoria alle battute. Ma non è che ti odia solo lui, anche tutte le persone che recitavano con te. Ma odiavano. Il concetto era giusto, però. Sì, ok, il concetto. Vabbè, insomma, dai, per davvero, racconta un po' questo personaggio. Storia. Io. Esatto, questo è quello che fanno i doppiatori, che spesso doppiano un film intero, come ha detto benissimo prima lui, senza nemmeno conoscere meno la storia. Lo sai, meglio. Però è questo è audiovisivo, capisci Pino? Bisognava conoscerla la storia. La spiego brevemente. Dilla, vai. Allora, Alessia, anzi no, Alessia, che è la protagonista femminile, e c'è da dire che insomma è stata bravissima. Perché imparata a memoria. E adesso, a parte gli scherzi, anche Pino, devo dire che sulla commedia. Allora, io ti ho detto una cosa, per cui tu ci sei rimasto male, per la verità è un complimento incredibile. Cosa hai detto? Cioè? Sui piani d'ascolto, Pino è il numero uno. Sì, nei controscene. Quando le scene non facevano ridere, io montavo Pino muto. E faceva più ridere. Cioè, quando sto zitto, sono più bravo. Ma non è un'offesa, però è vero, sei più bravo nei piani d'ascolto. È vero. Ma perché ho deciso di fare quest'ultimo blocco insieme a te, Mauro, insieme a Alessia? No, perdonatemi, c'è una trasmissione che c'ha il suo perché. Prima di fare una domandina ad Alessia, volevo ringraziare gli attori, siccome sono sei, sì, posso, sì, fare devi, il nome, devi, per nome. Devi, assolutamente. La Pinansegno e Alessia Navarro, li abbiamo già citati, Alessandro Parrello, Tommaso Arnaldi, Angela Favella, Fiorella Buffa, attrice di teatro ultra settantenne, e Giulia Proietti per la prima volta sullo schermo, pure l'ultima pare, però lei dice così perché è stata presa un po' in prestito, come è stato per il bravissimo Mainetti con la protagonista femminile di Giga Robot, che era naturalissima in una parte, che poi Ilenia Pastorelli, sì, capito, che quello faceva, quello è riuscito a trasportarlo sullo schermo in maniera geniale, insomma. Adesso poi farà pure il film con Verdone, sì, già praticamente finito, per cui hai visto mai, ma faranno fare un film che si intitola Controscena, no, piano d'ascolto il musical, vinceresti l'Oscar, sì. Comunque facciamo dire due parole alla protagonista femminile e vediamo se riesce a spiegare almeno la storia, incuriosire il pubblico ad andare a visualizzare questa puntata, la prima. Lei poi ama tantissimo tutto ciò. L'improvvisazione è il tuo forte, Alessia. La storia è appunto la storia di Giuseppe e Maria. Due nomi a caso. Ma sembra la storia di un presepe. Non l'abbiamo fatto per te, almeno il nome te lo ricordavi. Che è come il mio, ma guarda che forte. Decidono di aprire una torrefazione, no? E quindi tutto si svolge all'interno di questo locale, tra gag e quant'altro, molto carino, insomma, delizioso. Tra le vicissitudini personali di questi personaggi c'è Giuseppe, che è innamorato di Maria. Maria non se lo profila per niente, ecco. Però è un po' comincia come nella vita, piano esatto. piano a farsi, a lasciare a un breccia. Solco, no? nella vita di. E poi di sono Maria. Tante storie verticali, sì, tantissime. Sì, ogni puntata tantissime. Racconta qualcosa, ma è veramente delizioso. È una web series di personaggi, secondo sì. me, più che di storia, perché nel web, appunto, come dici tu, l'orizzontale è quasi sempre, insomma, non c'è quasi sì, mai. Non serve tanto, però ci sono. Io volevo fare i complimenti vabbè, a tutti gli attori, quello senza dubbio, ma soprattutto eccolo. A voi due. Questo è un pezzettino. Sì. Ascoltiamo. Ciao Ro. Ciao. Robby? Zitto. Che c'hai? No, guarda, è una brutta giornata. Lo vedo, che è successo? Lascia stare, non posso parlare con te. E perché? Ok, va bene, questi sono all'inizio proprio della puntata dove parlano di questo mammona, il mago mammona. Mago mammona. No, finivo solo la frase per fare i complimenti a voi due. Più che altro Alessia, ma non wow. per... No, wow, no, wow, no grazie, ma Pino ha già 30 dimostrato... Secondi, mancano 30 secondi. 30 secondi. Pino ha già dimostrato di saper far commedia, è divertente, lo conosciamo. Alessia, che fino ad oggi ha fatto sempre teatro, molto impegnato, vi invito a vederla perché, insomma, no, quando un'attrice è brava può fare dramma, commedia e qualsiasi altra cosa. Questo come? Mondo ti regala anche questo, no? La possibilità di calarti in tanti panni. Magari una è più preparata o più propensa verso un ruolo, però poi si scopre anche in vesti diversi. Io mi sono molto divertita. Sì, l'importante pensavo. È che non canti. Quello, no, quello è non lo farò mai. Grazie, ma signori, dobbiamo chiudere. Grazie a Maro Meconi, grazie a voi. Grazie a tutti. Mamma Nero, vedetelo. Ciao a tutti.